Ok, quinta lezione, Hildegarda di Bingen. Guardate, io credo che periodicamente la dea si incarni in una donna e la renda veramente un essere straordinario. Ho presente Hildegarda, ma ho presente Giovanna d'Arco, per esempio. Ho presente Boudica, la regina dei Niceni, celtica, che da sola respinse, riuscì a riunire tutte le tribù celtiche e a respingere l'esercito romano. Cioè, sono veramente azioni disumane, nel senso buono della parola. E io credo davvero che quella che noi chiamiamo grande madre, lo spirito femminile della vita, la grande vita, si incarni periodicamente in una donna, la renda grande. Per portarci un messaggio, per lasciarci un'opera che va al di là di Ipazia, secondo me anche una di queste, ed è un'opera che lascia, no, che nonostante la volontà di occultare tutto quello che le donne fanno, tutto quello che è opera del lavoro, della fatica dell'intelletto delle donne, non si riesce a occultare. Ipazia, per esempio, nonostante sia stata sottoposta ad annanzio memoria, perché il vescovo Cirillo, che decretò il suo assassinio, fece in modo che venisse proprio completamente cancellata le sue opere distrutte, quindi non si sa come sia riuscita ad arrivare fino a noi e ad essere ancora oggi protagonista di romanzi. Tra l'altro ho in programma la lettura per la scuola delle donne della proprio della sua vita romanzata, scritta per la prima volta da un autore maschio. È la prima volta che accoglierò un autore maschio nel canale, nella scuola, ma vale la pena perché lui scrive come una femmina e racconta la vita di Ipazia in una maniera incredibile, nonostante questa donna, questa scienziata, sia vissuta 400 anni prima di Cristo, mi sembra, e quindi e nonostante il fatto che la storia avesse decretato la sua sparizione. Hildegarda, lo stesso, come sapete, è stata completamente sconosciuta fino a pochi anni fa. Non conosce nessuno, cioè io parlo con Hildegarda e pochissime persone. Adesso un pochino di più. Un pochino di sì, però comunque ancora adesso. Ma comunque diciamo che è stato santificato. Sì, dottore della Chiesa nel 2012 da Ratzinger. Io l'ho scoperta per puro caso perché quando ancora ero giornalista fui invitata per un viaggio per giornalisti a Bingen, proprio nella zona di Riedesheim, dove sorgeva il suo monastero, e tra le brochure che ci diedero c'era anche una cosina piccolissima che parlava di Hildegarda, però la conoscevano solo lì, non era neanche tradotto in inglese né in francese. Però mi restò questa cosa e cominciai a indagare. Di fatto io Hildegarda me la porto ormai credo da 14 anni e ogni volta scopro cose di lei, ogni volta sempre più profonda, proprio come una cipolla. Il 17 settembre dell'anno scorso è la data della sua morte. Il 17 settembre è morta nel 2000, purtroppo. Ero al monastero di Armentera, in Spagna, lungo il cammino, lungo la variante spirituale, e abbiamo assistito ad una funzione dove veniva ricordata da una sorella spagnola. È stato capendo una parola su di lei, ma è stato toccante perché lei era molto emozionata parlando di Hildegarda. È molto bello. Guardate, ci sono state delle grandi donne indubbiamente nel passato, ma alcune più grandi delle grandi, e non è soltanto una questione di antichità o di cammino spirituale, perché per esempio ho conosciuto bene da vicino la figura di Santa Brigida di Kildare, perché sono stata proprio a Kildare in Irlanda, dove lei è nata, e dove Kildare sarebbe il luogo della quercia, dove lei creò l'ultimo monastero nel quale ancora oggi c'è la buca del fuoco. Lei era proprio una sciamana, Brigida. Ed era figlia di un capoclano, quindi ricevette un'educazione druidica, e fu una donna che nel 400 d.C., quindi 600 anni prima di Hildegard, ebbe la forza e il coraggio di lasciare la famiglia e di rinunciare al matrimonio, di abbandonare tutto per fondare con le sue consorelle dei luoghi che poi sono stati chiamati monasteri, ma che in realtà erano delle comunità spirituali femminili dove si praticava la medicina sciamanica, la vita in comunità tra sorelle, ne fondò diversi in Irlanda. E per poter trovare materiale su di lei, io sono andata là e ho incontrato le suore di Brigid, che ancora oggi esistono, che sono delle suore laiche riconosciute dal Vaticano, ma senza velo, che pregano, hanno un modo di pregare in cerchio facendo un altare al centro, che è praticamente un altare pagano. Non so se avete visto la croce di Santa Brigida, che è una ruota delle quattro direzioni. Ma nonostante questo, Brigid non mi ha dato l'impressione di una grandissima donna studiosa, ma quel rimanere a bocca aperta e a ginocchia piegate che mi dà Hildegard, Brigid non me lo dà. Hildegard è stata veramente qualcosa di speciale. E mi è arrivata proprio di recente l'informazione che lei è stata l'incarnazione della dea nel suo aspetto totale, perché è stata la dea fanciulla in quanto lei è entrata in un convento che aveva 7-8 anni e non è mai più uscita, cioè l'hanno fatta monaca giovanissima, e già a 3 anni lei aveva visioni, per cui è la dea nel suo aspetto di fanciulla, di vergine, è la dea nel suo aspetto di madre, perché le sue sorelle la chiamavano madre, la consideravano madre, magistra, sì, loro la chiamavano magistra, ma in realtà la consideravano madre e lei si considerava la loro. Quindi è la fanciulla e la madre ed è l'anziana, perché ha vissuto comunque fino a 73 anni e ha portato avanti tanto, sì, 80, per l'epoca. 81-82, una cosa così. Credo. 82, perché è nata nel 98 ed è morta nel 179. Ah, può darsi allora. Sì. Quindi comunque per l'epoca. Sì, è vissuta tantissimo. Per l'epoca sicuramente tantissimo, se calcolate che a 70 anni più o meno si è messa a cavallo per girare e andare a praticare, ma anche tanto distante, per cui sicuramente era una donna che doveva avere qualcosa di straordinario dentro. Secondo me è stato proprio questa cosa, che lei ha incarnato la dea in tutti e tre i suoi aspetti. È la prima volta che io la vedo così chiara questa, perché o poco manca la fanciulla, o manca la madre, o manca l'anziana, perché nelle grandi donne che abbiamo studiato finora mancava sempre l'anziana, erano morte tutte giovanissime sempre. Oppure mancava la madre, perché magari erano donne che non si erano sposate, erano passate donne anche colte, intelligenti, che avevano scritto cose importanti, come Virginia Woolf, per esempio, che però non ha mai sentito il ruolo di madre, è passata direttamente dalla fanciulla all'anziana. Lei le ha incarnate tutte e tre, proprio perché essendo in convento aveva le sue fanciulle, le sue, soprattutto nei confronti di Riccardi Sfonstadel, le sue di madre, anche se poi c'è chi maligna, chi dice che ebbe un rapporto che non era propriamente madre e figlia, ma questo lo dicono anche di Gabriele Mistral, e no, non ce ne frega niente, in realtà. Ecco, mentre scrivevo la sua vita, canalizzando in parte per la scuola, per il libro Antenate, ho ricevuto questo messaggio che vi evidenzio, se avete letto il capitolo, lo avete letto di sicuro, però ve lo evidenzio perché secondo me è importante. Lei mi ha detto: dall'inizio dell'umanità io assolvo il mio compito come porta dell'Ovest, insieme a Miriam Magdal, Maria Maddalena, che è la porta dell'Est, i due pilastri, le due colonne del Tempio, no? i due alberi del Giardino dell'Eden, l'est e l'ovest, perché poi queste due colonne non stanno mai a nord e a sud, sono sempre l'est e l'ovest che si incontrano. Perché? Perché l'est è il luogo dove ci incarniamo e l'ovest è dove ci disincarniamo. Quindi così come Miriam Mandel, che fu un'altra donna straordinaria, sopravvissuta a una damnatio memoria in totale, che incarna il luogo di entrata, lei incarna il luogo di uscita. Ed è stata sicuramente una grandissima custode della porta dell'Ovest, Hildegard, perché a mio parere l'idea della trasmutazione, l'idea dell'entrata e uscita dalla dimensione incarnata, lei la viveva costantemente, perché lei da sveglia, da lucida aveva visioni, quindi era proprio una guardiana della soglia, lei viveva con un piede di qua e un piede di là, non aveva neanche bisogno di andare in trance, cioè, vedeva tranquillamente, senza bisogno di neanche di mettersi seduta e cantare una om. Viveva come Giano, un po' Giano di fronte, viveva contemporaneamente in tutte le dimensioni, quindi era totalmente una sciamana. E mi diceva, insieme io e Miriam, che Maddalena, sapete che non è un nome, in realtà Maddalena è un aggettivo, il nome di Maddalena era Miriam, e Magdal, da cui viene la parola Maddalena, significava torre, la pastora, la torre del gregge, torre nel senso di guardiana, di pastore, per cui torre e albero e scala e colonna sono intercambiabili, quindi Maddalena ce l'aveva proprio nel suo nome questo ruolo di guardiana della porta, questo ruolo di capo, di pastore, di guardiana dell'axis mundi. L'axis mundi, non c'è bisogno che ve lo traduca, no? È la spina dorsale, la colonna vertebrale del mondo, che viene mantenuta da queste due grandissime donne che rappresentano sicuramente la dea e incarnano la dea per mantenere l'equilibrio, per mantenere secondo me anche, adesso questo sta arrivando adesso, per evitare che il genere femminile si estingua, perché ci sono stati dei momenti storici in cui è stato un miracolo. Pensate che leggevo che in Germania, dopo che fu scritto il Malleus Maleficarum, 1300, sapete che è stato scritto da due monaci di Magonza, mi ricordo se erano domenicani, sì, o benedettini, domenicani, sono sempre loro, c'erano dei villaggi in cui non c'era neanche più una donna, erano state tutte bruciate, non c'erano più donne, non c'erano più gatti, perché avevano bruciato tutti anche quelli, quindi topi, no? Quindi è stato veramente un miracolo se l'umanità non si è estinta, probabilmente perché ci sono stati questi grandi pilastri femminili dell'umanità che hanno garantito che il genere femminile in qualche modo sopravvivesse. Ecco, oggi va molto in voga dare una versione di Hildegard che in realtà è storicamente errata. Io stessa pensavo così, pensavo che avesse scampato per un periodo i roghi dell'Inquisizione e che fosse sempre a rischio di eresia. Questa versione mi è stata in realtà corretta da una tedesca, da una sciamana tedesca che si chiama Sophie Delavant, non so se qualcuno di voi la conosci, presso la quale ho passato il mio 50° compleanno, e che mi ha dato questa informazione sul fatto che in realtà Hildegard è vissuta 300 anni prima che venisse scritto il Malleus Maleficarum e che si cominciasse a bruciare ufficialmente le donne. E Sophie mi diceva che in realtà quando Hildegard visse, le donne di medicina, le curandere, le terapeute, le erboriste erano molto rispettate, facevano il loro lavoro alla luce del sole, non avevano nessun bisogno di nascondersi, perché non erano ancora cominciata la caccia alle streghe. Ma Hildegard voleva qualcosa di più, non si poteva accontentare della conoscenza empirica o della trasmissione orale, della conoscenza erboristica, terapeutica, che passava di madre in figlia o di maestra in apprendista. Lei voleva i libri, voleva la conoscenza anche dei libri, voleva conoscere le tecniche di medicina che si usavano in Alessandria d'Egitto, piuttosto che i libri di Averroè, Ibn Sina, mi sembra che fosse il nome persiano di Averroè, Avicenna, no? Il grande, ho sbagliato, ho detto Averroè, intendevo Avicenna in realtà. Lei riuscì ad avere un trattato di Ibn Sina, Avicenna, il grande medico persiano dell'antichità, perché la sua controparte maschile, il monaco Folmar, che secondo me era innamorato perso di lei, sì, che si è fatta questa impressione, gli procurava di sottobanco, quindi lei poté studiare anche, quindi poté unire questa sua conoscenza empirica, i risvegli delle memorie cellulari, le visioni che lei aveva spontaneamente fin da quando aveva 3 anni, con quello che studiava sui libri, con il fatto di essere un'incarnazione divina, quindi cioè, per forza doveva essere una donna straordinaria e per forza tra l'altro doveva essere così longeva, perché lei non era solamente una donna, per quanto si nutrisse in modo sano, per quanto facesse una vita sana, ma a quell'epoca ha vissuto almeno il doppio rispetto a quello che era l'età media. Sì, sì, sì. Ecco. Sono stata a Disibodenberg e a Bingen 3 volte nel corso della mia vita. 4 in realtà, perché la prima volta ci andai per puro caso, che avevo 14 anni, ero in Germania a studiare il tedesco, ospite di una famiglia, e quindi non conobbi allora Bingen, mi fermai a Rüdesheim, che è dove adesso sorge praticamente quello che viene chiamato oggi il monastero di Hildegard, che in realtà non ha niente a che vedere con lei. Ci andai poi con quella che all'epoca era mia sorella, la mia compagna d'arte, una sorella spirituale. Andammo in macchina e partimmo proprio per andare a cercare le tracce di Hildegard a Bingen. E poi ci sono tornata altre 2 volte con il cerchio planetario delle donne per studiare quello che è rimasto di lei. E la cosa assurda è che non rimane niente in piedi di quello che ha costruito lei. E questo è strano, perché sembra quasi come se morta lei, passatemi la parola morta, cioè tornata lei, comunque uscita dal corpo, l'organismo, tutto quello che lei aveva costruito fosse rimasto senza anima. Disibodenberg, che è il monastero dove lei visse fino a 40 anni, 43 anni, dove divenne badessa, dove prese i voti, praticamente un cumulo di rovine. E la storia racconta che dopo che lei se ne andò, sopravvisse ancora pochi anni, ma poi cadde in rovina e non si riprese mai più da questo corpo. È un luogo molto suggestivo, dove sicuramente si sente ancora tanto la sua presenza, perché, anche perché è l'unico luogo oggi dove poter andare a cercare la presenza di Hildegard. Lì c'è questa quercia tripartita dove abbiamo fatto anche la cerimonia del cerchio planetario delle donne, il terzo anno che ci incontravamo siamo andati proprio a Disibodenberg. E lì c'è questa quercia che parte con un unico ceppo e poi si divide in 3. Dentro, nel perimetro, dove anticamente c'era la chiesa, quindi dove lei sicuramente ha pregato. Sapete che la quercia è la pianta druidica per eccellenza, quindi io lì ho sentito davvero la presenza di Hildegard. Non ho trovato niente del monastero di Bingen. Nel monastero a Bingen, nel luogo dove lei costruì il monastero, oggi c'è un multistore, un negozio di elettrodomestici, cioè del genere. Si dice che sia stato distrutto dalla guerra, ma in realtà fu distrutto da un incendio anche prima, ed è stato distrutto da un incendio, tra virgolette, anche il secondo monastero che lei costruì specularmente. Eibingen, che probabilmente vuole dire o sopra o sotto o di fianco, perché Eibingen è il nome del secondo monastero che lei costruì gemello. Stranissima questa cosa, che lei costruì 2 monasteri gemelli di qua e di là del Reno, in riva al Reno, ma proprio nel luogo dove lei non andò in un luogo casuale. Lei ricevette la visione del luogo dove andare, nel luogo, le fu detto, dove la nave incontra il Reno, dove fa una B, quindi che cosa? La vagina, la sacra vagina. Quindi lei mise di qua un monastero e di qua l'altro, come se fossero proprio 2 colonne all'interno delle quali accogliere tutte le ragazze, che erano tantissime, che volevano andare nel monastero per poter studiare, per potersi sottrarre alla schiavitù domestica. E quello che oggi viene chiamato il monastero di Hildegard in realtà non è Eibingen. Nel luogo dove sorgeva Eibingen oggi sorge la chiesa parrocchiale di Rüdesheim, costruita sulle rovine, e non resta niente, giusto qualche sasso del vecchio monastero di Eibingen. Il monastero che sorge ben visibile, bello grosso, sulle rive del Reno, con i vigneti eccetera eccetera, è semplicemente un monastero benedettino gestito da monache benedettine, che non hanno niente, sono proprio monache, sono molto rigide, molto chiuse. Io sono andata, ho cercato di parlare con loro, ho cercato di spiegare quello che stavo facendo, ma ho visto una chiusura totale, quindi sono totalmente cattoliche, totalmente benedettine, e hanno direi anche molto marketing, perché vendono di tutto, cioè c'è una grossa commercializzazione dei vini, cioè c'è molto business in realtà, sui libri di De Garda, sulle pietre di De Garda, ma le monache, per come le ho viste io adesso lì, non hanno niente a che vedere con lei, perché lo percepivo proprio dal tipo di energia, no? Quando io ho cominciato a parlare di cerchi di donne, diciamo, le ho viste immediatamente, sì, subito. Il luogo invece dove ho sentito molto la sua presenza è l'ostello di Wingen, dove, udite, camminando nella foresta che c'è dietro, ho trovato degli alberi segnati con la conchia, con la conchiglia di Compostela. Perché da dietro lì passava uno dei tanti cammini che andavano a Compostela, che poi mi sono fatta confermare da Raffaele Lema, mio amico studioso di Compostela, ci sono proprio querce con la concia, la conchiglia, simbolo di Compostela. Quindi lei sicuramente sapeva che lì passava, perché i cammini di Compostela sono stati creati su ley line, su linee energetiche della terra, dove puoi camminare per chilometri senza sentire la stanchezza. Io ho fatto il cammino che ho fatto io, l'ho fatto all'indomani del digiuno di tre settimane, di cui una settimana senza bere, quindi non avevo tono muscolare, in più io non sono una camminatrice, non ero allenata per niente, eppure arrivavo a fare 20 km al giorno, perché ci sono delle tratte, tu sai, che bisogna per forza fare 20 km, se no non arrivi da un ostello all'altro. E le facevo, certo arrivavo stanca, però quando sono partita ho detto muoio, non ce la farò mai, specialmente dopo un digiuno così, che ho fatto, praticamente ho passato 3 settimane a letto sdraiata perché avevo talmente tanta sete, ero talmente tanto debole, non riuscivo neanche ad alzarmi. Sono partita e sono riuscita a camminare in virtù del fatto che è la stessa energia della terra che ti dà forza per camminare. E tanta gente va a fare il cammino senza avere nessun allenamento, in realtà. Quindi lei, secondo me, quando ha avuto la visione del luogo dove creare il suo monastero, aveva sicuramente presente il monaco Rupert, perché il monte sul quale sorge Wingen si chiama Rupertsberg, Berg vuol dire montagna in tedesco, quindi il monte di Rupert, che è un monaco, ma secondo me lei, questa è la versione ufficiale che ha dato, e De Garda va studiata al di là delle versioni ufficiali che ci sono state passate, perché è stata totalmente colonizzata dalla Chiesa Cattolica. Lei, secondo me, ha visto sia la il luogo di incontro della Nahe con Reno, sia ha visto dove passava la ley line di Compostela, che era già attiva perché il cammino di Compostela esiste da 10.000 anni, partiva dal Mar Nero, quindi era molto più antico di lei. E quindi lì, ecco, io ho sentito veramente l'energia di De Garda non nei luoghi ma nei boschi. E ho potuto davvero percepirla che ancora camminava, qualcosa ancora di lei, andava a erborizzare, andava a raccogliere i funghi, andava a cercare le pietre che lei utilizzava, andava a ispirarsi ai canti. Lei, secondo me, quando aveva questi grandi momenti di sconforto, perché ne ha avuti tantissimi, andava nel bosco, andava a mettere le mani sulle querce, non andava a pregare in chiesa, lei andava proprio a pregare nella terra, a mettere le mani nella terra. Visto, adesso mi viene da dirvi, da raccontarvi così, mentre ero in Romania sono stata a vedere diversi monasteri ortodossi gestiti dalle monache ortodosse, meravigliosi, nello stato nella regione della Bucovina, che è nel nord, al confine con l'Ucraina. Ci sono questi monasteri dipinti, affrescati fuori legno, che sono di una bellezza straordinaria. Ci sono ancora immagini della dea dell'acqua, della dea della terra, la dea che cavalca il delfino, molte immagini pagane. Queste monache che al mattino ascoltavano messa stando in giardino, sedute davanti o con le mani per terra o sedute davanti a un cespuglio, in contatto con la natura. Cioè il prete, la messa veniva detta da un prete, però il prete era dentro, in chiesa, e basta, le monache erano tutte fuori. E una mattina io sono andata perché volevo osservarle, volevo sentirle, mi sono alzata presto e sono andata in questo luogo dove loro pregavano, e ho avuto uno scambio intensissimo con una monaca ortodossa. Questo non ha niente a che vedere con il degrado, ma forse anche sì, chi lo sa, perché ci sono state delle monache che sono state delle grandissime studiose sapienti. Con questa monaca romena c'è stato un intensissimo scambio di sguardi, come se ci fossimo riconosciute in realtà, E dopo che è finita la messa io sono andata a parlarle, mi ha parlato in un inglese perfetto, coltissimo, mi ha raccontato di essere stata tanti anni negli Stati Uniti e mi ha dato tutta una lista senza sapere niente di me, mi ha detto guarda ti consiglio di leggere questi libri, mi ha dato tutti i libri pagani, tra virgolette, di cultura femminile pagana ma anche molto antica, che io mai avrei pensato potesse venire da una monaca che per quanto non appartenente alla chiesa romana, però comunque la chiesa ortodossa fa comunque parte della cristianità. Ecco, mi viene da dire una cosa, c'è stato un signore che ascoltando su YouTube il mio racconto, la mia lettura del racconto di Hildegard scritto da me, mi ha scritto un messaggio sotto, ve l'ho raccontato, no? Dicendo questa è una versione che tu hai, ti sei inventata perché Hildegard di fatto ha sempre pregato Gesù Cristo, non so se ne avevamo parlato l'altra volta, è la sua, la versione sbagliata, io non ho mai letto nessun accenno a Gesù Cristo in Hildegard, lei qualche volta parla di Dio, ma lei parla della viriditas, cioè, e parla della subtilitas, e parla della luce, come la chiama? La luce... fiamma che non brucia, qualcosa del genere, ce l'ho scritto, non ricordo esattamente le parole, o la luce che non brucia, o la fiamma che non brucia, quindi io non ho mai letto termini che avessero attinenza in realtà con la cultura cattolica, lei è stata diciamo colonizzata dalla chiesa cattolica e ce l'hanno spacciata per cattolica, ma in realtà era totalmente nazionale, e ha usato dei termini che potessero essere compresi da chi fosse in grado di intenderli, cioè ha usato dei termini alternativi, per me la viriditas è la dea, è la vita, viriditas viene da viridis, che in latino significa verde, quindi sarebbe la verdità, ossia che cosa? Le gemme che brottano, la vita che rinnova se stessa, questo spirito, tant'è vero che lei ha creato un'immagine anche di una donna tutta vestita di verde che è nel suo tavolo e dopo ve la faccio vedere, una donna bionda vestita di verde. Non c'è un'immagine di Dio o di Cristo nelle sue tavole, però c'è sempre questa donna, questa immagine femminile con il libro in mano o con le tavole in mano. Ecco, fu erborista, botanica, medico, nutrizionista, musicista, filosofa, scrittrice, attivista politica anche e leader, perché lei era la referente di Federico Barbarossa e fece politica, anche se crediamo di no, ma anche astenendosi dal prendere una posizione si vuol fare politica, per esempio. Quando Federico Barbarossa si mise contro il papato, perché voleva detenere lui il potere che fino a quel momento era stato del papa, e fece una specie di scisma, lei non prese posizione contro il Barbarossa, lei non prese posizione, non difese il papato, il che significa comunque già prendere una posizione. Quindi è chiaramente stata dalla parte del Barbarossa, perché non ha difeso il papato. Anche se il papa le diede il permesso di scrivere per l'intercessione di Guglielmo di Chiaravalle, quindi lei in realtà non era contraria al papa come figura, ma lei aveva una sua linea di condotta che era, secondo me non gliene fregava molto di chi fosse papa, di chi fosse imperatore, a lei interessava portare avanti la sua visione, la sua idea di medicina, la sua idea di musica, la sua idea di sorellanza, e non le interessava chi c'era al potere, bastava che la lasciassero in pace, e quindi ha fatto in modo, un po' tipo mi viene in mente il modo di operare della regina Elisabetta I, non so se avete mai letto qualcosa su di lei, ma gli storici che ne hanno parlato hanno detto che lei è riuscita a governare per tanti anni, a far fronte a tante insidie, perché di fatto non prendeva mai posizione. Lei era molto morbida, lei seguiva il flusso, no? Lei aveva a cuore gli interessi dell'Inghilterra e del suo popolo, ma non si è mai messa contro nessuno. Lasciava che fossero gli altri a fare, perché lei era la madre. Quindi un po' quel modo, no? Molto femminile, molto... astuto è una parola brutta, aiutatemi a trovarne, ma molto sottile, di avere ben chiara la propria finalità e di utilizzare ogni mezzo a disposizione per perseguirla, molto diplomatica, senza mai mettersi contro nessuno, il che significava non prendere mai nessuna posizione. Dunque nacque a Bingen nel 1098, lo sappiamo, e sì, è vero, morì nel 1179, per cui sì, è vero che visse 80 anni. 81 anni. nell'Assia renana, quindi proprio nel cuore della Germania, quella che poi per Goethe è diventata il cuore, la Deutschland liberale, il cuore pulsante della Germania. All'epoca veniva detta Franconia, non Germania, e questa, quella stessa Franconia, per chi di voi conosce la figura della papessa Giovanna, avete letto o sentito o visto il film La Papessa, e anche lei, anche Giovanna, veniva dalla Franconia. E nacque in un castello a una ventina di chilometri da Magonza, da famiglia aristocratica, e fu sempre, tra virgolette, di salute cagionevole. Questo è quello che ci tramanda la storia ufficiale, anche se mi fa giusto ridere pensare come ha fatto una di salute cagionevole da bambina a campare fino a 80 anni in quel modo. Quindi in realtà probabilmente quello che oggi chiamano salute cagionevole erano quei mal di testa tremendi che le prendevano, ma perché lei dall'età di 3 anni cominciò a ricevere visioni. Quindi si metteva a letto perché non sapeva come altro fare, piccolina, a reggere queste cose, non era malata, la salute cagionevole non può reggere quello che ha detto lei. Devo dire che probabilmente le faceva anche molto comodo poi con gli anni dichiararsi debole e dichiararsi ignorante per non attirare sguardi di invidia su di sé. Lei nei suoi scritti si definì sempre ignorante e debole per non suscitare l'invidia maschile, perché lei non fregava di essere riconosciuta in realtà come leader, come donna, quindi faceva di tutto per non infastidire il potere, che anche se non c'è ancora il tribunale dell'inquisizione, però cioè, comunque era patriarcato pieno, cioè lei doveva rendere conto l'abate. E quindi si definì, secondo me, quello che i libri raccontano che fu di salute cagionevole in realtà è l'interpretazione che lei dava di se stessa, ma era tutt'altro che cagionevole, anzi doveva essere bella in forza. Andava, ecco, soggetta a forti emicrani in concomitanza con queste visioni che riceveva e che da piccolina neanche comprendeva. Quindi a 3 anni cominciò a ricevere le visioni. A 8 anni entrò a Disibodenberg era il monastero fondato da Disibod, che era un monaco di origini irlandesi, che quindi portò in quel luogo il celtismo, il cristianesimo druidico e il cristianesimo celtico, che era mescolato con la cultura druidica. Quindi lei sicuramente pescò, se non da fonti scritte, ma comunque respirò l'atmosfera che venne da Disibod, che era della linea di sangue di San Patrizio, vescovo protettore dell'Irlanda. A 38 anni divenne badessa, e a 40, questa è la cosa, il primo degli indizi che ci dicono che era una sciamana, si ammalò di una malattia incurabile, come le maci, come le sciamane. Quando io riuscii finalmente a parlare con una maci in Cile, dopo un'ordalia che neanche ve la racconto, perché io ero partita per il Cile per andare a incontrare una maci, ci riuscii dopo un mese, gli ultimi 3 giorni prima di tornare, perché venivo continuamente depistata. Finalmente arrivai a Pucón, sulle rive in Araucania, e riuscì in modo molto avventuroso a incontrare una vera maci, che sono le donne di medicina della cultura mapuche, e lei mi raccontò che anche lei si era malata e che non riusciva assolutamente a guarire, fino a che fu portata da una maci anziana che le disse: ti sei ammalata perché non stai rispettando la tua missione di vita. E pare che questo sia uno dei modi di manifestarsi della chiamata sciamanica per chi non la segue fin da subito, per chi non la riconosce fin da subito, cioè improvvisamente ci si ammala e non si riesce a guarire fino a che non si comincia a seguire davvero la propria missione, non si accoglie la chiamata. Il fatto che cosa le successe? Lei ricevette l'ordine dall'altra dimensione, dalla Dea, dico io, di scrivere le sue visioni, cosa che lei fino a quel momento non aveva mai fatto, perché si vergognava, perché aveva paura, non credo che avesse paura, ma comunque insomma non l'aveva mai fatto fino a quel momento. E non fu facile per lei, perché per avere il permesso dovette scomodare Bernardo di Chiaravalle, che dovette scomodare il Papa, perché l'abate che c'era a Tisiponte il verbo quando lei, anche se era badessa, non gli diede il permesso assolutamente. E fu contrastata comunque anche dagli altri capi delle altre branche, diciamo, delle monastiche. Quindi finalmente si ritirò sul Rupertsberg, sulla montagna dove lei poi fondò Bingen. Se ne andò in isolamento da sola, in eremitaggio, per scrivere lo Scilias. Scilias, conosci la via? Le vie, conosci le vie, perché mi sembra sia plurale, no? Scilias. Tu hai scritto latino, giusto? Ho qualche argomento, qualche, sì, da autodidatta. Ah, vabbè. Sci, vuol dire sappi, viene dal verbo latino scio, che significa so, e vias, le vie. Quindi lo Scilias è conosce le vie, lei ha usato il plurale, perché in effetti sono tanti sistemi che lei suggerisce. Per poter scrivere quest'opera monumentale, lei si dovette ritirare da Daisy Goldenberg in eremitaggio su Rupertsberg, sulla montagna, dove incontrò sicuramente l'energia di Rupert e dove poi ebbe la visione di dover creare il suo monastero che poi divenne Bingen. Bingen è il nome del paese, Rupert è il nome della montagna sulla quale sorge questo paese. Ecco. Quindi si ammalò anche lei, si ammalò perché non stava ascoltando la chiamata. A 52 anni il monastero di Bingen, lei fonda il monastero di Bingen, quindi a 52 anni lei esce, parte da tutte le comodità di Daisy Bodenberg, dove era badessa, dove erano già una ventina, mi sembra, di monache. E quando lei entrò ce n'erano solo in tre e in realtà erano molto aumentate le ragazze che andavano a studiare lì, perché c'era lei, le ragazze erano attratte da lei, volevano imparare da lei, la sua fama si era diffusa, era famosissima alla sua epoca, proprio come Cristina Trivulzi di Belgioioso, no? Queste donne che fanno questa cosa fulminante, no? Sono famosissime, dopo una volta lasciato il corpo scompaiono, fino a che in qualche modo qualcuno non le ripesca. Quindi a 52 anni sono tanti per partire per una roba così, calcolate che Bingen è a 40 km da Daisy Bodenberg. Calcolate che ci si muoveva a cavallo o a piedi e che per più di un anno vissero sotto le tende le donne in attesa che venisse pronto. Quindi durante l'inverno, in attesa che venisse pronto, perché lei poi chiese delle cose ben specifiche, cioè questa cosa dell'acqua corrente che mi sconvolge, cioè lei, non era solo una questione di genere, perché lei diceva che nell'acqua c'era la guarigione, quindi sicuramente lei era cosciente della memoria dell'acqua, tant'è vero che lei metteva i cristalli nell'acqua e poi faceva bere l'acqua informata. Non era ancora nato Benveniste, non era ancora nata l'omeopatia né Hahnemann, quindi ufficialmente non era ancora stata scoperta la memoria dell'acqua, però lei già sapeva. Quindi sicuramente l'acqua dappertutto, in tutte le stanze, immaginatevi per quel tempo che opera monumentale quanto tempo richiese, ma lei non volle sentirne ragione, fu per quel motivo che metà poi delle donne, delle sorelle l'abbandonarono e se ne tornarono a Daisy Bodenberg, non ressero, le lasciò andare. Ma immagino che non deve essere stato piacevole, cioè se vedo come mi sento io per il fatto che se ne sono andate in due, immagino lei come si deve essere sentita. A 62 anni, cioè 10 anni dopo, creò Eibingen dall'altra parte, il monastero gemello, perché era identico. Questa è una cosa molto molto interessante, perché lo ha costruito identico e giusto dall'altra parte? Ci deve essere stato un motivo esoterico oltre ad un motivo, anche perché gli architetti l'avevano sconsigliata di costruire da quella parte, sarebbe stato molto più difficile per lei, più facile per lei costruirlo da un'altra parte, lì dovettero togliere alberi, sbancare, ma lei voleva assolutamente che fosse lì perché aveva avuto la visione che doveva essere lì il primo Bingen. Ecco, vi ho detto che non resta più niente né dell'uno né dell'altro, ufficialmente o bruciati o distrutti dalle bombe, però insomma ci sono state cose molto più antiche che sono anche state bombardate, che sono anche state incendiate, però di cui restano, pensate a Chartres, quante volte è stata bruciata, sembra che sia data a fuoco 9 volte, la cattedrale di Chartres è stata tutte le volte ricostruita. Quindi mi fa strano che una cosa che all'epoca era così importante non sia stata, non si sia neanche tentato di ricostruirla, di rifarla in qualche modo. Il Barbarossa, dice lei, mi conferì pieni ed esclusivi diritti di proprietà su Rupertsberg, cioè sulla montagna dove costruì Bingen, nonché la sua personale protezione. Questo perché mi mantenne neutrale durante gli scismi che egli creò, eleggendo ben 3 antipapi che si contrapponevano ai papi di Roma, quello che dicevamo prima. Sotto la saggia guida di Hildegarda, la comunità di Rupertsberg vive, ecco, questa è una lettera scritta, un resoconto scritto da un cronista dell'epoca, diceva: sotto la sua guida la comunità vive nella gioia e nella concordia, suscitando ammirazione ovunque. La madre circonda le figlie con tale amore e le figlie si sottomettono alla madre con tale reverenza che si stenta a distinguere se siano le figlie o la madre a riportare la vittoria. Quindi una concordia totale. Praticano con zelo letture e canti e le si può vedere intente a scrivere libri. Lei aveva proprio una copisteria sua, una, come si chiama? Scrittore, bravissima. A tessere paramenti sacri o dedite ad altri lavori manuali, quindi non solo andavano ad erborizzare, a raccogliere le erbe e secondo me anche i funghi, lo vedremo dopo, nella foresta, credo sia la foresta nera, ma coltivavano anche, avevano proprio il loro giardino che esiste ancora oggi con le piante officinali lì in quella zona. Non è lo stesso, però ancora oggi a Bingen esiste un grande giardino di piante officinali che ovviamente si chiama Hildegarda, e dove fanno convegni, sono stata anche lì, ci sono questi pezzi di terra dove vengono coltivate le erbe che lei, di cui lei parla nei suoi ricettari. Ecco, una cosa interessante, importante, per esempio, che ho scoperto vedendo il film della Fontrotta, che non viene citato in nessuna fonte, è che lei fece togliere il velo alle monache, perché voleva che vivessero in maniera laica. Quindi cantavano, danzavano, mangiavano bene. Lei diceva che non c'era motivo di soffrire, perché la sofferenza nel fisico si sarebbe rispecchiata nella sofferenza dello spirito e che eravamo state create, siamo state create per gioire. Quindi mangiavano bene, anche se facevano solo un pasto al giorno, ma quel pasto era buono. Le sue ricette, non so se qualcuno di voi ha provato a cucinare, ma sono buonissime. Quando siamo state a Bingen, a Disibodenberg, con il cerchio planetario delle donne, una delle sorelle ha cucinato dei biscotti secondo la ricetta di Hildegarda riportata nei pastelli. Erano buonissimi questi biscotti. I biscotti della gioia, non sono le cose. Sì, buonissimi, quindi mangiavano bene, anche se mangiavano solo una volta al giorno, perciò erano felici queste donne. In realtà studiavano, erano libere, si volevano bene tra di loro, si rispettavano, una cosa meravigliosa. Ecco, un po' la stessa cosa che fece Santa Brigida di Kildare in Irlanda, però di Santa Brigida lo sappiamo, non ci sono scritti suoi, non ci rimane quasi più nulla di suo, quindi, mentre di Hildegarda ci rimangono testi, quindi in realtà di Hildegarda si sanno molte più cose, oltre a tutti gli scritti che sono state le testimonianze storiche della sua epoca, come questa cosa che vi ho appena letto. Dopo i 63 anni e nell'arco di una dozzina di anni, quindi fino a 75 anni, lei andò a cavallo per centinaia di chilometri. Io ho scritto sotto qui, non è una banana. I suoi 4 viaggi di predicazione nelle principali città dell'Europa centrale, quindi oltre anche fuori dalla Franconia, all'epoca erano veramente estenuanti. Lei predicò a Magonza, a Colonia, a Treveli, a Liegi, a Metz, e a Bergen, e tranne la prima città che si trovava a soli 30 km da Bingen, Mainz, Magonza, le altre distavano tutte mediamente tra i 200 e i 300 km. Quindi immaginatevi una donna. Sei arrivata addirittura in Svezia? Sì, sì, perché Bergen era in Svezia, credo, Mainz è nei Paesi Baschi, nei Fiandre, Liegi, no? Ecco. E finiamo velocemente quindi con gli scritti che lei ci ha lasciato, che sono la trilogia. Perché non è molto facile capire che cosa ha scritto, che cosa ci ha lasciato in effetti, quindi ho fatto una specie di riassunto, una trilogia cosmogonica e visionaria, che è quella dove ci sono poi le tavole, che lei vedeva e che dettava, descriveva al monaco fuori, ma che poi le disegnava, che è composta da Lo Scirias, il primo libro che lei scrisse, il Liber Vitae Meritorum e il Liber Divinorum Operum. Diciamo che Scirias e il Liber Divinorum Operum sono quelli più studiati dal punto di vista della sua filosofia e delle sue visioni. Qui non ci sono erbe, ricette, queste sono pure opere di filosofia e di cosmogonia. Sono scritte in latino, io ho approcciato la lettura, sono incomprensibili perché sono sicurissima che il messaggio lei lo abbia lasciato nei disegni. La descrizione pesantissima, prolississima, che lei mette in latino serve solo a depistare. Ma aveva dato anche un alfabeto tutto suo? Sì, ci arriviamo, sì. Ma anche quello viene dalle visioni. Adesso finisco in fretta il racconto di questo perché poi passiamo alla fase sciamanica. E poi lasciò una quantità di lavori musicali raccolti sotto il nome di Sinfonia Harmonie Celestium Revelationum, divisa in Carmina e Ordo Virtutum. Il Carmina, che sono i canti che avete anche sentito, e l'Ordo Virtutum è proprio un'opera lirica. Poi le scienze naturali. Scrisse due libri che raccoglievano tutto il sapere medico e botanico del suo tempo, il Fisica, o Libro delle Medicine Semplici, e il Cause et Cure, o Libro delle Medicine Composte. Nel primo descrive i rimedi naturali, cioè le erbe, i cristalli, e nel secondo descrive i rimedi e i disturbi. Quindi è come fosse un'integrazione. Fu proclamata dottore della Chiesa nel 2012. Lei non parlava di curare le malattie, ma di mantenersi in buona salute. È un approccio decisamente diverso, è un approccio unitario, olistico. E parlava di riposare nella natura, quando si era affaticati, di riposare nella natura, perché nella natura c'è la viriditas, e la viriditas è la dea, è quella che ci ricarica. Faccio vedere quella che secondo me è l'immagine che lei lasciò nella dea. Te la descrivo, è questa donna, questa figura femminile, con la faccia rossa, le trecce bionde e un vestito verde e la posizione che è proprio da mudra. Volete vederla questa qui? Riuscite a vedere? La conoscete già? E quella in basso a sinistra. Il fatto strano è che lei metta la faccia rossa agli esseri soprannaturali. Non è che usa quel rosso lì perché non c'erano altri colori, perché gli esseri umani vengono fatti con la faccia rosa, mentre gli esseri soprannaturali lei li fa rossi, come se venissero da un altro mondo, li fa le mani, i piedi e la faccia rossi. Non so, tu riesci mettendo le mani sopra i disegni a sentire qualcosa, Cri? No, niente, comunque hai chiarito. Ecco, il fatto che lei abbia messo il vestito verde mi fa pensare che sia l'immagine della viriditas. Non può aver scelto un colore a caso, o quantomeno di solito le donne venivano raffigurate in bianco, era stranissimo, no? È una figura decisamente strana, poi vedete che è proprio un mudra, le due mani che raffigurano. Ecco, metteva i cristalli nell'acqua e al sole, proprio come se stesse facendo... Caricare li metteva al sole, quindi da dove le poteva venire? Non poteva averlo letto, né studiato, anche perché tutti i libri, semmai, della biblioteca di Alessandria, da cui avrebbe potuto attingere, erano andati distrutti. Secondo me è proprio un risveglio di memoria totale. Del resto anche il dottor Bach, quello dei fiori di Bach, come fatto, gli si sono svegliate le memorie, la medicina olistica è così che arriva con i risvegli di memoria. Ecco, respirare nella natura è medicina. Esporsi alla luce e all'aria è medicina. Lei racconta ai bugiardi e ai collerici, faceva tenere in bocca un diamante. Usava un topazio lasciato in infusione in una bevanda per neutralizzare i veleni, o immerso nel vino per 3 giorni e 3 notti e poi appoggiato sulle palpebre prima di coricarsi per combattere il mal di occhi. Una perla sciolta in poche gocce di aceto ingerita era un rimedio contro il mal di testa. Strofinava un'ametista sul viso per eliminare le macchie, cioè più sciamanico di così. Ma mi sembra veramente assurdo non volerla ammettere questa cosa, perché non era solo un erborista, cioè usare i cristalli va al di là della conoscenza semplicemente erboristica, e probabilmente questa conoscenza, l'utilizzo di queste pietre, non faceva parte delle cognizioni delle curandere, delle donne di medicina, perché bisognava avere gli ametisti, i topazi, i crisoprasi, gli aspri, i diamanti, che lei si procurava non so come, però in qualche modo li aveva. Per il mal di cuore prescriveva di portare un diaspro sul petto fino a quando non si fosse riscaldato con il calore del corpo. Il cristallo di rocca immerso in acqua serviva per il mal di pancia e di stomaco. Era mia convinzione, dice lei, che non si potesse mortificare il corpo senza avvilire l'anima. Questo l'abbiamo visto prima. E sostenne sempre che diventiamo ciò che mangiamo. Che quindi la vivere nella natura, riposare nella natura, respirare, prendere sole e mangiare sano sono i migliori modi per mantenersi in buona salute, pare che ci sia riuscita. La bioridità sarà per lei la capacità di germinare, quindi la dea, la grande madre, perché la grande madre, abbiamo visto in tutti questi incontri, che non è il principio femminile nella dualità. La grande madre è un concetto unitario che feconda se stessa, che genera da se stessa e che non muore mai, che si rigenera, si autorigenera. Quindi lei aveva in mente questa grande madre primordiale che ha chiamato Viriditas, che era ben prima del concetto di femmina e maschio, o di bene e male che è arrivato poi con il cattolicesimo. E la subtilitas, che erano le frequenze vibratorie, cioè l'energia che si sprigionava dai rimedi, lei la chiamava subtilitas. Quindi aveva chiaramente l'idea che si trattasse di qualcosa non fisico, una memoria, quindi. Ecco, io sono già alle 4:30, io avevo messo qui adesso di ascoltare un brano, ma forse lo teniamo per dopo, per quando fare la meditazione. Siete stanche? Andiamo avanti. Ecco, questa era la preghiera che lei scrisse, che secondo me è proprio una preghiera alla Dea, la conoscete già? Io forza supreme ardente, l'avete già sentita? No. Io forza supreme ardente, con saggezza e giustizia ho organizzato l'universo. Parla di Dio, parla di forza supreme ardente. Io vita ardente dell'essenza divina mi infiammo nella bellezza dei campi, splendo nelle acque e ardo nel sole, nella luna e nelle stelle. Quindi sta parlando del cosmo, lei, proprio della grande madre. Perché comunque se parlasse di Dio non parlerebbe della terra. Mai Dio è stato, il concetto di Dio è stato unito alla terra, il concetto di Dio è sempre andato in alto, nel cielo, nelle stelle. Qui lei parla chiaramente anche di terra, questo è ciò che ha scritto lei. Quindi è chiaro che sta parlando di una divinità più ampia del Dio cattolico. Con ogni soffio d'aria, come con la mia presenza invisibile, risveglio ogni cosa alla vita. L'aria vive nel verdeggiare e nel fiorire. Le acque scorrono come se vivessero, memoria dell'acqua. L'ho lasciato scritto in modo talmente ovvio. E così io riposo in tutta la realtà come forza ardente. Voi sentite la parola di Dio in tutto questo? Ma neanche Gesù Cristo, proprio zero. Tutto brucia attraverso me, tutto vive nella sua essenza e in essa non vi è morte. Ecco perché all'inizio ho detto che lei era la guardiana della porta dell'Ovest, perché lei è ben cosciente dell'unicità della vita, della rigenerazione, della trasmutazione. Perché io sono la vita, ecco, lo dice chiaro, in ogni cosa in fondo la vita, così che nulla è di natura mortale. Io sono la vita integra che non è nata dalle pietre, non è fiorita dai rami, non ha radici nella capacità umana di procreare, anzi è la vita intera ad avere in me le sue radici. Così servo e aiuto perché tutta la vita si infiamma attraverso me. Sono la vita eternamente uguale a se stessa, senza inizio né fine. Questo dal Liber Divinorum Operum, la sua cosmogonia. Questa è, secondo me, proprio la dichiarazione di quello che lei intendeva per Viriditas. Ossia la Dea, la grande madre, per chi è in grado di intendere, di comprendere a chi si rivolgeva. Fece innovazioni anche in campo musicale per generare coerenza nel battito cardiaco, cioè ascoltare la sua musica cambia il battito cardiaco e lo mette in coerenza con le frequenze cerebrali, quindi crea uno stato di risonanza tra il cuore e il cervello che sapeva solo lei, scopriva solo lei, che pensate è una cosa straordinaria. Davvero, le sue musiche sono molto particolari, non sono canti gregoriani, sono diverse da tutto. Anche perché spesso lo strumento suona su una sola nota, sono le voci che cambiano tonalità e vengono accompagnate da questo sorta di, non so come si chiama, una cetra, una viola, non ho idea, che aveva una corda sola, no? Quindi che serviva in realtà proprio a dare, è come se fosse un armonico o un digeridò, serviva a dare una sola frequenza intorno alla quale poi si organizzava tutto il canto. E anche questo è sciamanico, totale. La preghiera per lei era entrare nel vuoto, in preghiera, entrare nel silenzio e connettersi col divino e da lì ci si autoguariva. Lei diceva, io aiuto semplicemente le persone ad autoguarirsi, perché entrano nel loro vuoto interiore, nella loro memoria cellulare e risvegliano il ricordo della salute che è addormentato. Quindi non era un'entità come facevano tutti, anche i monaci che all'epoca curavano le monache, di pregare un'entità esterna perché venisse a guarire. Lei era talmente dentro nell'unità che diceva no, io ti do la possibilità di risvegliare nelle tue cellule la memoria della salute. Questo è esattamente quello che fanno gli sciamani. Nessuno sciamano mai vero o nessuna sciamana mai vera dirà io ti ho guarito. Una vera sciamana dirà io ti ho messo in condizione di guarirti, ti ho aperto le memorie, ti ho aperto il canale, per cui tu puoi guarire te stessa. Questo è sciamanismo. Sapete che la parola sciaman significa ponte, lei ponte totale. Ecco, lei dice di sé, ecco la luce vivente la chiamava, la luce che vedo è solo l'ombra della luce vivente. E come la luna, il sole e le stelle appaiono nell'acqua, così io percepisco solo il riflesso. Quindi lei vedeva questa sorta di nebbia luminosa, lo lascia descritto di nebbia luminosa, sulla quale lei vedeva proiettarsi delle immagini, come se fosse uno schermo. Ma lo vedeva con gli occhi aperti, anche se comunque era in uno stato di trance, perché quando aveva queste visioni non mangiava, non camminava, non si muoveva, restava ferma e la sua mente, la sua memoria, secondo me, proiettava queste visioni che poi lei descriveva al monaco che le disegnava. Quindi non vedo né odo con l'udito corporale, né col pensiero, né percepisco nulla con i miei cinque sensi, ma neanche con l'anima, con gli occhi esteriori aperti, cosicché non ho mai sofferto l'assenza dell'estasi. Cioè lei vive costantemente in stato di estasi perché è costantemente collegata con quest'altra dimensione. Dice, nella visione il mio spirito ascende all'altezza del firmamento e nei diversi strati dell'aria si espande nei villaggi, viaggi astrali, quindi. In nessun modo posso conoscere la forma di questa luce, la luce vivente, perché non posso guardarla, è troppo luminosa, così come non posso guardare direttamente il sole, quindi le serviva questo schermo che filtrasse, no, per non bruciarsi gli occhi. Le parole che odo in questa visione non sono parole che suonano nella bocca dell'uomo, ma come fiamme e nubi che si muovono nell'aria pura. Quindi lei percepiva frequenze e secondo me erano proprio gli svegli di memoria che lei percepiva come suoni dall'interno. Il principio visionario di Hildegard è quella luce interiore sulla quale si proiettavano queste immagini che lei vedeva come al cinema, che poi lei descriveva al monaco, un processo molto complesso, ma molto sciamanico anche. E adesso vedremo che è lo stesso processo che seguono quelli che ingeriscono piante psicotrope. Ma mi sta venendo in mente, adesso con Valentina siamo stati una settimana in Puglia e siamo andate a visitare diversi luoghi della Dea e ho approfondito un po' la questione della grotta di Porto Badisco, non so se la conoscete, è un luogo di culto paleolitico. Ma dove? In Puglia, vicino a Ostuni. Sono state trovate queste, probabilmente è il sito di culto paleolitico più antico di Europa e si tratta di tre grotte, una accanto all'altra. E lì hanno hanno scoperto che c'era questo culto del serpente che hanno collegato alla Kundalini, hanno trovato diverse corrispondenze. Adesso ho iniziato a leggere questo libro molto complesso su questi culti della grotta di Porto Badisco, ma parla di immagini fosforiche e dice che, ora non ricordo quali studiosi hanno scoperto che oltre all'utilizzo delle sostanze psicotrope, alcuni esseri umani hanno probabilmente a livello di memoria questa capacità di indurre uno stato come quello dato da questo tipo di sostanze, di funghi, di erbe che creano allucinazioni, nel senso che aprono un canale, sì, in quel senso. E si diceva che probabilmente questi uomini dell'antichità riuscivano, uomini e donne, ovviamente lo dico nel senso anticomprensivo, riuscivano a fare questo tipo di lavoro. E mi viene da domandarmi se il De Gava, oltre a utilizzare queste erbe e questi funghi, avesse magari anche la capacità di creare questo stato alterato senza dover correre. Ci arrivo, sì, sì. Sì, è quello che Kramer, che in questo suo libro Sciamani, dove anche lui parla di De Gava, chiama spontaneous trance, tra coloro che vanno spontaneamente in trance, che è quello che sono io, perché io vado, cioè io posso tranquillamente avere visioni, fare tutto quello che devo fare senza prendere niente, mi viene così. Alcuni ci arrivano anche attraverso digiuni, per esempio nel popolo Mapuche le maci non prendono sostanze, ma ci arrivano suonando il tamburo fino a... In realtà quello che succede è che bisogna portare il corpo ad un livello in cui molla, la ragione molla, il controllo, no? E quindi il corpo si zittisce e le percezioni si aprono. Ma ci sono delle persone che ci arrivano anche senza bisogno di fare nulla e esistono proprio questi spontanei trance. Alle volte dipende anche da qualcosa che è contenuto nel luogo, e lo vedremo perché è interessante, dopo vedremo anche la figura di Bernadette, quella di Lourdes, perché alle volte sono anche delle sostanze contenute o dei funghi o delle spore che si respirano nei luoghi, che senza avere la minima idea portano ad avere queste visioni. Quindi sì, sicuramente. Allora, la seconda, adesso passiamo invece proprio alla sua impostazione sciamanica. La seconda visione, riportata nel Liber Divinorum Operum, è una ruota di medicina. Eccola qua. Fammi leggere che non voglio sbagliare. No, non è questa. Allora, questa è la seconda visione delle sue tavole del Liber Divinorum Operum. C'è un essere umano, potrebbe essere di sesso maschile, ma non si sa di fatto perché non ha connotati sessuali, al centro di una serie di sfere. Come vedete però c'è anche una terra all'altezza dei suoi lombi, cioè c'è una sfera esattamente dietro i suoi lombi. Questo essere umano è quasi nella posizione dell'uomo di Vitruvio e intorno a lui o a lei ci sono delle sfere azzurra, blu, nera e rossa che sono l'aria, l'acqua, l'etere e il fuoco e la terra al centro. Cosa fa lei in realtà? Perché dico che questa è una ruota di medicina? Perché lei segna le quattro direzioni in concomitanza con i quattro elementi, cioè mette addirittura una serie di tre animali su ogni sfera orientate in un punto. Quindi adesso vi spiego. Praticamente all'est la prima sfera è di fuoco. E lei all'est mette le prime tre facce di animali nella sfera di fuoco. Vedete che cominciano, sono appoggiate alla parte rossa, alla sfera rossa che è di fuoco. Fuoco luminoso dove un leone versava rugiada soave su ciò che era arido. All'ovest, nel fuoco nero della seconda sfera, quindi qua, dentro nella sfera rossa c'è la sfera nera che è il fuoco nero, risiede un orso, mette un orso che trattiene le acque e impedisce loro di dissolversi. Al sud, nell'etere puro, che era la terza sfera, questo blu più scuro, lei al sud mette altre tre facce. Vedete che ci sono tre facce di animali che si assomigliano, ma cominciano, cioè hanno il capo posizionato ogni volta in una sfera. All'est sono nella sfera del fuoco, all'ovest sono nella sfera del fuoco nero, al sud sono nell'etere e al nord sono nell'acqua. Quindi al nord nel cerchio di aria umida, che era la quarta sfera, scusate, aria umida, un lupo era il guardiano che impediva alle tenebre esterne di oltrepassare il limite. Ecco. Poi, quindi questi sono gli elementi che lei vede, dove lei segna le quattro direzioni collegate agli elementi. Quando ho iniziato a scrivere Antenate e la visione delle donne, mi incuriosivano, non so se riuscite a vedere, ci sono delle stelle, come dei soli segnati, ci sono sette sfere qua sul capo dell'uomo che vanno verso l'alto, di cui quella centrale, la quarta, è più grossa, e in basso c'è una mezzaluna. Quindi sono le sette stelle del nostro sistema solare, molto prima che venissero scoperte, col sole in mezzo. Le sette, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, li vedete questi sette puntini sopra la corona? Lo faccio girare? Sì. Grazie. Quindi ci sono questi sette soli, queste sette stelle, diciamo, sopra la testa, sopra il capo di quell'essere umano, con il sole più grande al centro, la mezzaluna e la terra in basso, perché la terra, la sfera che rappresenta la terra, sta nei lombi dell'uomo o della donna che è raffigurata lì in mezzo a questi cerchi concentrici. Ma non è solo questo. Ve lo leggo perché è troppo difficile. In una delle sfere sono segnati altri due soli luminosi al sud e all'ovest, che apparentemente non c'entrano niente con tutto il disegno, cioè sono completamente fuori collocazione. È come se lei stesse dando una mappa celeste, però se voi fate la somma delle sette sfere sopra la testa di quest'essere, più la terra che sta al centro, più queste due stelle, scusami, qua, una è qua e una è qua sotto, quindi non hanno nessuna attinenza rispetto al disegno, quanto fa? 7 più 1 più 2? Fa 10. Quindi 7 più altre 3. Esatto. Okay. Quindi lei è cosciente degli altri pianeti senza bisogno di telescopi, senza bisogno, perché lei lascia traccia di un sistema solare, del nostro sistema solare, con 10 pianeti. E poi ci sono delle stelle equidistanti in un'altra sfera, che sono queste qua, piccoline. Queste sono equidistanti, che sono 12. Io ho provato a tracciare tutti i vari collegamenti che sono possibili fare tra le 7 di cui abbiamo parlato prima, le 2 e le 10, e vengono fuori 22. 22, 12 più 10 sono le 12 costellazioni, più i 10 pianeti sono i 22 arcani maggiori dei tarocchi, e sono collegati all'albero della Cabala, all'albero della vita della Cabala. Quindi lei tutte queste informazioni le aveva molto prima che fossero divulgate ufficialmente. C'è una serie di informazioni astronomiche e astrologiche dentro in questo quadro che sono veramente incredibili. E poi vi faccio vedere questo anche è tranquillamente una ruota di medicina, con le quattro stagioni identificate con le quattro direzioni. Quindi la primavera all'est, l'estate al sud, l'autunno all'ovest e l'inverno al nord. ditemi se questa non è una ruota di medicina sciamanica. Medicina cinese, parlavo di 6.000 anni fa. Ah, beh, sì, certo, però. Però lei è la riconoscenza. Esatto, per questo dico è stato un risveglio di memoria il suo, fortissimo. Quindi le sue visioni in realtà non c'entrano nulla con i doni cattolici, erano proprio visioni sciamaniche di un sapere profondissimo. Questo angelo rosso che regge una sfera composta da quattro cerchi concentrici, questo angelo che chissà se poi è un angelo o è una creatura, un'entità, no, questo è, ve l'ho appena detto, quello che vi ho appena raccontato, ecco. Ora, vi racconto, vi leggo, tratto da, sempre da Antenate, la visione delle donne, un brano, una nota in realtà, che ho scritto basandomi su quello che Graham Hancock scrive nel suo libro Sciamani e basandomi sul racconto che io non ho mai preso ayahuasca, non ho mai preso sostanze psicotrope perché sennò vado e non torno più. Però la mia sorella d'anima, Teresita Ramos, prende spesso ayahuasca, segue spesso le cerimonie, quindi mi sono fatta raccontare da lei. Quali sono gli effetti? Prendi ayahuasca? No. Mi sono fatta raccontare da lei quello che si prova e oltre a tutto questo ho parlato con un etnobotanico che si chiama Juan Plantas, spagnolo, al quale ho chiesto di verificare se, secondo lui, le tavole disegnate da Hildegarda, le visioni di Hildegarda, potrebbero essere state provocate dall'ingestione di sostanze psicotrope. E lui mi ha risposto di sì. E, ovviamente ai tempi di Hildegarda non si parlava di ayahuasca, però Juan Plantas mi ha comunque parlato di sostanze, di piante psicotrope che già all'epoca di Hildegarda venivano utilizzate e che da tempi immemorabili in Europa vengono utilizzate perché sono state trovate tracce di bevande o di funghi bruciati nelle zone archeologiche, per esempio nei nuraghi in Sardegna. Quindi sicuramente i nostri, e in Germania c'erano queste piante che sono la mandragola, il vischio e la manita muscaria. Queste tre piante unite, secondo Juan Plantas, prese insieme danno lo stesso effetto, ma in versione europea, di quello che potrebbe dare l'ayahuasca. L'ayahuasca è il nome che si usa per intendere in realtà questa miscela di radici e di erbe e di bacche che vengono lasciate a macerare, vengono messe in infusione, che poi vengono bevute con il nome di ayahuasca. Sì, quindi probabilmente che puzzano, pensa che io ho vissuto un mese in casa in Brasile, in casa di un ayahuaschero che la teneva in frigorifero nelle bottiglie dell'acqua di tasca, ogni giorno me la offriva, io proprio non ce l'ho perso, mi terrorizza l'idea, perché io penso la facilità che ho di andare, se io bevo ayahuasca non torno più. Non ho mai fumato marijuana, non ho mai preso niente, perché in realtà non ne ho bisogno. Io sono convinta che abbiamo la capacità innata di connetterci con queste dimensioni. Certo, utilizzare piante è molto più rapido. Io non sono d'accordo, per esempio, no? Perché dico, se tu hai questo talento, ce l'hai indipendentemente dall'utilizzare, no? Sì. Le sostanze, quindi va bene così. Andare ad utilizzare delle sostanze per favorire questo stato, dico, cosa serve? No, guarda, io credo, Teresita anche ce l'ha di suo, però lei adora la ayahuasca, lei la chiama mamita, perché sono veramente, chi la prende è convinta di avere a che fare con uno spirito divino, quindi parla di queste entità delle piante come maestri, come maestre, e parla di medicina, quindi hanno un approccio con la pianta, è un altro modo, un altro sistema ugualmente legittimo, e di fatto io credo che da un certo punto in poi Hildegarda l'abbia utilizzato, perché penso, di fatto lei ha lasciato in uno dei suoi disegni, si vede chiaramente, credo che le agevolasse, intanto che le saltasse la fase del mal di testa, perché probabilmente quei mal di testa che lei aveva da bambina erano questi carichi di visioni che arrivavano e lei non era in grado di gestirli, era come, non so, come voler mettere il motore di una Ferrari in motorino, non c'è a faceva. Io credo che con l'aiuto della pianta, del fungo, lei in qualche modo riuscisse a gestire in maniera meno violenta, meno traumatica queste visioni che riceveva. Io l'intuizione che lei faceva uso di piante l'ho avuto vedendo il film della Fontrotta, perché altrimenti non ci sarei arrivata. Nel film della Fontrotta si vede chiaramente che la ragazza che rimane incinta e che vuole suicidarsi va nell'armadio dove lei tiene i medicinali e prende un pezzo di pianta. Avete visto? Sì. Un pezzo di fungo, sì. E lo mangia. Quindi se andava nella pianta di medicinali e mangia, si vede che sta mangiando un fungo, vuol dire che lei sapeva che veniva utilizzato. E di fatto nel libro di Graham Hancock lui parla della psilocibe semilanceata, che è un fungo che cresce ancora oggi, che sicuramente cresceva in quella parte dell'Europa ai tempi di Hildegarda, che dà questa aiuta, cioè agevola, velocizza e rende meno violente, meno dolorose le visioni. Io poi ho scritto, collegandomi con lei, ho scritto: lo assaggiai per caso un giorno insieme ad altre erbe selvatiche raccolte per l'insalata, perché sono piccolini questi, sembrano quasi quelli dei cartoni animati. C'è il gambo che è un filettino sottile, sottile, sottile, come può essere quello di, non so se avete presente, gli Shanghai. Sì. Può essere di quella misura, e la capocchietta è piccolina sopra, è stretta, avrà forse un centimetro di diametro e per un centimetro di altezza, quindi non è la manita muscaria che è grossa, il cappello è grossa. La psilocibe lanceata è piccolina, e può essere benissimo che le sia capitata nell'insalata e che l'abbia scoperta in questo modo. Scoprì che mi risparmiava l'emicrania postuma e la fatica di andare in pranzo con il digiuno. Secondo me lei utilizzava molto il digiuno, lei digiunava spesso. E la cosa divertente è che quando non otteneva quello che voleva, e per esempio lo strumento che lei utilizzò per poter avere dall'abate di Dizzy Bodenberg il permesso di andarsene, fu che lei smise di mangiare. Andò in trance, si mise lì con gli occhi sbarrati, sdraiata, non si muoveva, non parlava, quasi non respirava e non mangiava. E sappiamo che il digiuno è uno dei sistemi che si usa per andare, per ottenere la trance sciamanica. Quindi lei può darsi benissimo che più avanti con l'esperienza abbia utilizzato le piante psicotrope per evitarsi la fatica di digiunare, perché io credo che le piacesse mangiare. Che chi è in grado di concepire delle ricette così buone sicuramente non è una persona che ama digiunare. Quindi io credo che le pesasse digiunare. E però insomma, quando le serviva lo faceva. Ecco, utilizzavo anche la datura, la muscaria, la manita muscaria, talvolta anche la radice di mandragora e un po' d'occhio. Dalle descrizioni degli effetti di piante psicotrope contenute nel libro Sciamani di Graham Hancock, ho tratto l'ipotesi che Hildegard, oltre ad avere una naturale predisposizione per i viaggi fuori dal corpo, si aiutasse con funghi. Infatti la sensazione, ecco, di essere trafitta da lance o spade, dunque adesso devo aprirvi una piccola parentesi. Nella sua indagine Graham Hancock si rende conto che sia lui che prende le piante psicotrope di persona, sia tutti quelli che gliene parlano, raccontano di avere dei dolori lancinanti come se venissero trafitti da frecce, da spade, da spilli. Questa è una delle cose, è un pacchetto di sensazioni del quale fa parte questa sensazione di trafittura. E questa trafittura lui tra l'altro la nota nei petroglifi neolitici, nelle caverne dove ancora oggi si incontrano i petroglifi, nella zona dei Pirenei, quindi Altamira, Lascaux, dove sono rimaste queste immagini di esseri umani o esseri metà umani, metà animali, trafitti da lance, da frecce. È sempre stato detto che erano scene di caccia, ma in realtà non è così, perché questa cosa della trafittura viene collegata da Hancock alle visioni e alle sensazioni prodotte da chi prende la ayahuasca oggi. E io la collego, guardate un po' qui, che cosa abbiamo? questa visione di De Garda, che secondo me è proprio la prova lampante. Guardate qua, in alto a destra c'è un essere umano trafitto da una spada all'altezza del bacino. La vedete? Il motivo aveva lei di fare, cioè cosa significa in una visione scatologica una donna, sembra che sia una donna lì o una sirena o qualcosa. Ma oltretutto ha delle zampe da uccello. Sì, perché anche i teriantropi li chiama, cioè quegli esseri metà animali e metà uomini, fanno parte del pacchetto delle visioni della ayahuasca o delle sostanze psicotrope, perché si entra, mi raccontava Teresita, che si entra proprio in una dimensione in cui si vedono questi esseri che sono sconosciuti a livello di coscienza ordinario, sono degli esseri metà umani, metà animali, che sono stati trovati nei petroglifi neolitici delle caverne, che racconta chi prende la ayahuasca e che il De Garda mette chiaramente. Vedete che sulla destra c'è, allora c'è lei trafitta da una freccia sulla destra, e sulla sinistra c'è un essere con le gambe umane, le braccia umane, la testa e le zampe da leone. E qui in questa visione c'è un'altra. Queste vengono tutte quante dal libro di Normoder. Qua c'è un altro perianto, un altro essere che non si capisce, mezzo angelo, mezzo falco, che ha il corpo umano ma con squame di pesce, e poi ha tre paia di ali con delle sfere sopra, tre paia di ali e zampe e da uccello, sia ai piedi sia ai mani. È con la solita faccia rossa con cui lei identifica gli esseri non umani. Quindi secondo me nelle sue visioni ci sono completamente tutto il pacchetto delle sensazioni da piante psicotrope. Vado avanti a leggere qui, scusate, lo leggo perché è davvero troppo complesso da ricordare, ma ce la faccio. La sensazione di essere trafitta da lancio spade, la visione di periantropi, ovvero esseri umani con parti animali, e di esseri alati e luminosi, di occhi, la visione di occhi, anche questo fa parte del pacchetto delle visioni, si vedono occhi nel cielo, occhi e sfere bianche e nere. Globi di luce o luci splendenti o fuochi bianchi che non bruciano come la luce vivente di cui parla lei. Queste sono tutte cose che chi prende la ayahuasca, chi fa uso di sostanze psicotrope, racconta di vedere, incluso la mia sorella Teresita, racconta che si vede esattamente questo. Ma probabilmente anche nei libri di Castaneda, che voi li ha letti, ci sono cose di questo genere, perché lui infatti prendeva il San Pedro e l'altra cosa era Ciacuna. Esatto. Ecco, l'altra cosa che fa parte del pacchetto che lei mette nelle sue tavole è la percezione della roccia come passaggio o diaframma per dimensioni parallele. Questo non me lo ha raccontato Teresita, però è Graham Hancock che lo racconta, di aver visto proprio che al di là della roccia c'era qualcos'altro. E io ho, se voi, non so, qualcuno di voi è stato in queste grotte neolitiche dove ci sono petroglifi nei Pirenei, sia in Francia che in Spagna? Beh, Lascaux e Altamira sono chiuse, purtroppo non si può più entrare, però io sono stata al Castillo, che è nei Pirenei, al confine tra Francia e Spagna, che è ancora aperta, e lì si vedono chiaramente sulla roccia disegnate queste creature, che sembra quasi che chi le ha scolpite abbia catturato un'entità, una realtà che stava dentro nella roccia, ma non bloccata, come se la roccia fosse un diaframma per poter passare in un'altra dimensione. E questa informazione interessantissima ci arriva anche da Jean Marie Howell, l'autrice della saga dei figli della terra. I figli della terra, non so se l'avete sentito parlare, è una serie di 7 volumi in cui lei racconta in forma romanzata tutta la vita delle comunità matriarcali neolitiche, sulla base anche delle statuette scoperte da Maria Jean Butas. In Italia sono state presentate come fantasy, quindi sono state totalmente declassate e secondo me nessuno le ha prese sul serio per questo motivo, ma fuori dall'Italia, negli Stati Uniti, in altri paesi del mondo, lei è stata elogiatissima, le hanno dato laurea ad onore in paleobotanica, in paleozoologia, perché lei ha ricostruito in maniera molto puntuale la vita nel paleolitico e nel neolitico, anche ad arrivando fino all'ultimo, è una serie di 7 romanzi che vedono come protagonista sempre la stessa donna che si chiama Ayla, che diventa una sciamana, che ha un lungo viaggio di apprendimento, che parte dalla Crimea, che voi sapete dove è la Crimea, nel Mar Nero, è la penisola che entra nel Mar Nero, non so, non mi ricordo se dall'Ucraina o dalla Georgia, comunque sta in cima al Mar Nero, parte da lì e si attraversa tutta l'Europa fino ad arrivare alla Scozia, praticamente, e incontra nel romanzo l'autrice che si chiama Howell, immagina che lei arrivi proprio nel momento in cui questi petroglifi cominciano a essere fatti. Sai che non si trovano nuovi questi libri, non si trovano in audiobook, non si trovano nelle biblioteche. Io li ho comprati usati, io li ho comprati tutti usati, perché non li hanno più ristampati, cioè, dei libri meravigliosi. Me li hanno nominati giusto 2 settimane fa una sorella di Ostuni, dei pressi di Ostuni, siamo andate a trovarla. L'ho conosciuta attraverso proprio il circuito delle Belle Rosse, insieme siamo andate a fare un percorso insieme a varie donne, perché poi facciamo la rilettura degli archetipi a Sapiore. E proprio mentre eravamo in Puglia, in Valentina abbiamo detto caspita, c'è il Marcella vicino, andiamo a trovarla. Ed è stata proprio lei a parlarmi di questi libri, mi ha detto che sta finendo di leggerli ora, me ne ha parlato molto, molto sì. Bene. Ma io che sono tra l'altro una studiosa da sempre e che amavo il fantasy, non li ho comprati neanche come fantasy quando avevo visto la pubblicità del primo di questi volumi nelle riviste del cos'era il club degli editori, mi ricordo, ma non mi era venuto in mente di prenderlo perché in realtà c'era l'immagine di questa ragazza vestita da preistoria, quindi con un bikini praticamente di pelle di orso, perché chiaramente io avevo forse 16 anni, quindi siccome non ho visto né Fabio né Elfi né Draghi, al momento non ci ho fatto caso. Poi un giorno che ero da Teresita nel suo centro spirituale in Extremadura, ho trovato in spagnolo il Clan del Oso Cavernario, si chiama in spagnolo, in italiano è stato tradotto, il primo volume è stato tradotto come Ayla e i figli della terra, ma in realtà il titolo originale è Il Clan dell'Orso delle Caverne, e ho iniziato a leggerlo in spagnolo e ne sono innamorata. Quando sono tornata in Italia l'ho cercato, non c'è stato verso assolutamente, li ho trovati tutti quanti tramite usati, mi ricordo se su eBay o Amazon o nella libreria dove andavo, usati si trovano. L'autrice si chiama Howell? Jean M. Howell. Perché lei l'ha scritto in modo romanzato, ma l'ha scritto assolutamente in modo aderente alla realtà. Figli della terra. Il ciclo dei figli della terra sono sei volumi. Nell'ultimo di questi lei, Ayla praticamente arriva alla fine del suo viaggio e arriva nella zona dei Pirenei dove stanno creando queste grotte e ha le sue esperienze sciamaniche in queste grotte e si rende davvero conto che chi va a dipingere nelle grotte ha delle visioni fuori dal corpo, ha delle visioni di dimensioni parallele di cui la roccia è come fosse il portale, è una sorta di diaframma, una sorta di ingresso. E guardate qua due delle sue visioni, forse anche di più, qua e qua, se faccio girare, questa è proprio roccia. Vedete che qui sulla sinistra c'è la solita donna seduta in un cerchio che potrebbe benissimo essere il cerchio con i quattro colori delle quattro direzioni sciamaniche, il libro in mano, la conoscenza, e sulla sua sinistra c'è questa roccia, questa è chiaramente una roccia, che immette dentro in una città che potrebbe essere la Gerusalemme celeste dell'Apocalisse, ma potrebbe essere un'altra dimensione. Qui idem, qui addirittura la discesa di questi esseri dall'alto che attraverso la roccia passano ed entrano nella città. Qui c'è l'idea della roccia come passaggio per entrare in questa città che potrebbe essere un inframondo, un'altra dimensione, questa città racchiusa dentro in queste mura bianche e nere, no? E anche, faccio girare, anche questo fa parte del pacchetto delle sensazioni provocate dalle piante psicotrope. Potrebbe essere la terra cava. Che la terra cava probabilmente non è in questa frequenza, è in un'altra frequenza, quindi se noi cercassimo, se noi la cercassimo, se noi volessimo vederla non la troveremo. Io ho girato tutto il mondo per cercare gli ingressi e non li ho trovati, però nei luoghi dove avrebbe potuto esserci quello che percepivo era una frequenza diversa, ma se ci fossero dei portali, delle bolle, non è possibile entrarci con questo corpo e vederla con questi occhi, perché è un'altra... Così come il Shambhala. Esatto, sì. Riesci a seguire qui? Sì, insomma. Beh, cerco di descriverti il più possibile. Il fatto è che purtroppo il De Garda ha lasciato disegnato. Tanti per cui cerco di il più possibile di descrivere. Ecco, quindi la percezione della roccia come passaggio o diaframma per dimensioni parallele sono tutti particolari riscontrabili nelle visioni di Hildegard e fanno parte del pacchetto di percezioni sciamaniche dovute a piante psicotrope di cui parla Enko in questo libro, che se siete interessati allo sciamanesimo ve lo consiglio perché è veramente intrigante da matti. Secondo me la Valentina dovrebbe, se non lo conosce già. Perché Valentina in realtà ha iniziato a leggere da pochissimo, perché lei non è mai stata una vita lettrice, quindi può darsi che non lo conosca. Ecco, l'autore sostiene però che vi sono anche individui, e qui rispondo a te, che raggiungono stati di trance e visione grazie alla loro stessa chimica cerebrale, perché sono praticamente in grado di produrre spontaneamente la dimetiltriptamina, che è un ormone ed è quello che viene assunto attraverso la piante psicotrope, DMT. No? La nostra chimica può produrlo, secondo me tutti ce l'abbiamo questa facoltà. In alcuni è più sveglio, in altri meno. Però io credo che sostanzialmente il corpo umano sia in grado di, tutti siano in grado di fare la stessa cosa. Anche secondo me, lo vedo con mio nipote che ogni tanto mi racconta delle cose e io lo investigo e dico, ma spiegami bene cos'è che stai vedendo, perché lui, sai, i bambini, no, quando giocano, che si immaginano, che vedono, che ti raccontano. E io amo che mi racconti queste cose qua, secondo me lui ha questa cosa. E poi allora dico a mia figlia, ecco, lascia che lui immagini queste cose, fatti raccontare cosa vede. È bellissima questa cosa. Che buono, sì. Perché non lo chiudono a scuola. Quindi lui li chiama spontaneous trancer, e questo è il caso di Hildegard. Anko sostiene che le visioni da estasi mistica e da assunzione di sostanze psicotrope sono così simili poiché indotte dagli stessi neurotrasmettitori cerebrali, quindi la serotonina, che è l'ormone prodotto credo dalla dimetiltriptamina o qualcosa del genere, non sono sicura, comunque non mi interessa. Sicuramente abbiamo degli ormoni che ci portano, ma la stessa endorfina. Credo che la DMT sia precursore della serotonina. Brava, il contrario. Se sì. Sì, è il contrario. Quindi è la DMT che produce serotonina. Quindi, siccome la serotonina è un ormone che noi produciamo naturalmente, per forza dobbiamo avere la possibilità di sintetizzarlo dalla dimetiltriptamina in modo naturale. Scrive la stessa Hildegard nella sua opera Scilias: si manifestò una lucegna abbagliante che, venendo dal cielo che si era aperto, infiammò completamente il mio cervello, e come una fiamma che non brucia ma riscalda, detto fuoco si fissò completamente al mio cuore e al mio petto, e immediatamente diventai sapiente nell'interpretazione dei libri sacri. La ghiandola pineale trasforma la serotonina in triptamina, precursore chimico della DMT. Va bene, non è importanza, comunque quella roba lì. Magari ho sbagliato io a scrivere. Il processo avviene attraverso particolari enzimi e se avviene due volte avremo la dimetiltrittamina, una sostanza endogena presente liberamente in natura e nell'uomo, nell'essere umano, nel fluido cerebrospinale. Ecco, questo è un particolare che avevo dimenticato, ce l'abbiamo quindi tutti, si tratta di risvegliarlo o di attivarlo più probabilmente. Sarebbe interessante capire attraverso quali canali poterlo fare in modo naturale, perché anch'io, quando ero io, ricordo vivissimo della mia visione, quando ero piccola, in questo canale aperto, cosa che poi sono andata man mano perdendo con la crescita, non completamente, ma in gran parte. Anch'io stessa non ho mai voluto prendere sostanze per poter promuovere questa capacità, però ci sono periodi dell'anno soprattutto in cui sono un po' più ricettiva, sì, esatto. Io credo che possa essere riattivata con il canto. Per esempio, io tempo fa ho attivato delle persone, in effetti, con il canto e con il tocco delle dita, massaggiando qui si chiama la bocca di Dio, l'ingresso del midollo allungato, alla base della calotta cranica. E con il suono, però soprattutto io emetto delle frequenze quando canto che in qualche modo attivano. E queste persone dopo di allora mi hanno raccontato che hanno avuto visioni molto più profonde, sogni premonitori. Quindi penso che al di là delle sostanze si possa fare con il suono, per questo il The Garden insisteva tanto su quella... come che hai chiamato? Lo strumento, non hai detto tu prima? Il salterio. Il salterio, Sì, anch'io, io ho orrore delle sostanze, ma neanche una canna, proprio il vino, quando è buono, quello è il massimo. Ma quello è, cioè... Sì, però anche quello comunque è una... apre. Allora, finisco solo queste ultime righe e poi facciamo pausa per lì perché sto morendo. Anche se farò così. Sì. Quindi... anche il esatto, mi allerga. Allora, i suoi recettori sono nel cervello della dimetiltrittamina dei mammiferi, tra cui l'uomo, l'essere umano. L'ipotesi è che in qualche tappa della nostra evoluzione e più tardi in qualche individuo il dosaggio di trittamina endogene sia stato più alto nel nostro corpo rispetto al presente. Tra le esperienze che la DMT innesca vi sono quella cognitiva e quella transpersonale o estatica. Quasi il 90% degli sperimentatori di questa sostanza riferisce di venire trasportato in un altro mondo da entità, quindi questi esseri che lei fa con le facce rosse, le mani rosse, entità, quindi angeli, spiriti, demoni, esseri extraterrestri, a seconda, secondo me, della creatività di ognuno. Figure umane con teste di uccelli, alberi con teste umane, serpenti, sfere con naso, bocca e occhi e piccoli arti. Ecco, facciamo una pausa adesso per fare la pipì. Ormai non manca molto. Ecco, quindi oltre alle rocce come diaframma per un altro mondo, anche le vie d'acqua. E qui si vede chiaramente, per esempio, guardate questo. Qui c'è chiaramente l'acqua, queste tre fanciulle con i piedi nell'acqua e l'acqua che defluisce verso questa sorta di città che poi vedete è sempre la stessa città, no? Solo che una volta ci arriva dalla pietra, una volta ci arriva dal fuoco, una volta ci arriva dall'acqua. E qui c'è proprio l'imbuto d'acqua, qua, con queste specie di serpenti, creature strane, rane, facce con zampe di rane, la faccio passare. Sembra un occhio quello. Sì. Questa, cioè, questa è proprio molto, molto, molto tipicamente un'immagine da pianta psicotropa, da visione psicotropa, anche perché ci sono tutta quella specie di anfibi con facce umane, zampe di rana, piuttosto che serpenti con le ali, che sono i famosi teriantropi, le famose metà animali, metà uomini, di cui parlavamo. E qui c'è proprio l'imbuto, l'acqua che a un certo punto si restringe per farti passare poi nell'altra dimensione, e anche quello fa parte del pacchetto. Ecco, faccio passare. Qui c'è un'immagine anche tra l'altro nella quale si vede chiaramente che lei sta ricevendo, sostiene di ricevere dove sarà? Eccolo qua. Qui in basso c'è il monaco seduto che si vede che sta scrivendo, prendendo appunti in base a quello che lei gli racconta. Lei che ha in mano questa sorta di tavole, di piccole lavagne sulle quali probabilmente prendeva appunti, e si vede che ha la testa rivolta verso l'alto, dall'alto proviene questa specie di fuoco che le entra nel terzo occhio, che probabilmente è la visione, e dietro di lei c'è un'altra figura femminile, anche se qui è vestita da suora, che ha un occhio chiuso, uno aperto, cioè che è il simbolo del sapere. Questa figura femminile dietro di lei è il simbolo della sapienza, Sofia, con un occhio chiuso e uno aperto, perché un occhio è la conoscenza reale, quello chiuso è la conoscenza interiore, quindi lei non fa mistero di essere in un ambito totalmente esoterico. Cioè, si vede che qui lei non sta dicendo è Dio che mi ispira, sta usando tutti quanti i simboli, anche nello scritto lei lo mette che è Dio che la ispira, ma nei disegni mette tutta un'altra cosa, certo che questi disegni devono essere interpretati da chi sia in grado di farlo. Poi se girare lo vedi in basso a destra. Ecco, l'ultima cosa del pacchetto di sensazioni delle piante psicotrope racconta, chi prende la ayahuasca, di vedere i codoni del DNA ricombinati. Anche questo fa parte delle visioni. E secondo me la sua lingua ignota è esattamente questo. Lei diceva che vedeva delle lettere formarsi, delle lettere che non avevano nulla a che fare con la scrittura che lei conosceva, le vedeva formarsi davanti ai suoi occhi, da cui poi ha tratto quello che è diventato il suo alfabeto, no? Che sono, effettivamente sono segni che non c'entrano, non assomigliano a niente, né alle rune, né a... Neanche l'alfabeto almeno. No. No, questo qui, ma neanche quello pelagico, questa è proprio una roba completamente sua, e secondo me potrebbe benissimo essere quello di cui si parla, i codoni di DNA ricombinati che danno origine a queste lettere che lei vedeva. Questo lo trovate su internet, comunque queste immagini. Non so se esiste, sarebbe bello se esistesse in braille l'alfabeto. L'alfabeto segreto di Degas, a parte che nessuno è riuscito a interpretare, per cui alla fine, o magari ci riesci tu, Chris, con la tua, col tuo terzo occhio così, così attivo. Bene, allora, lei scrive: la prima madre di tutta l'umanità fu fatta a somiglianza dell'etere. Quindi lei non parla di Eva che fu tratta dalla costola, parla di prima madre dell'umanità fatta a somiglianza dell'etere, perché come l'etere contiene in sé tutte le stelle, ella integra e intatta conteneva in sé tutto il genere umano che avrebbe generato senza dolore, scrive lei, poiché le fu detto crescete e moltiplicate. Quindi non ha niente a che vedere questo con l'immagine di Eva, voi tu partorirai con il dolore. Allora, io come sempre, se volete questi appunti ve li mando per email. Volevo farvi vedere giusto qualche immagine di Bingen, quel poco che ho potuto scattare, gli alberi con le conchiglie di Compostela. Riesce a vedere? Spostatevi se non è in modo da... Questa è proprio Bingen nella foresta, ci sono moltissimi alberi, diciamo, sulla... Vedi che è proprio la... è proprio lei. Infatti io quando l'ho visto sono rimasta allibita, perfino sui pali della luce. La concia di Compostela. Un'altra. Questo è il Reno, nel punto dove si possono mettere i piedi, proprio a pochissima distanza da dove sorgeva il suo monastero. Questo invece è il monastero, quello che viene detto adesso, il monastero di Ildegarda, delle Benedettine, che però non ha niente a che vedere con tutti i vigneti sotto e loro vendono a caro prezzo sia i rimedi che il vino, dall'altra parte del fiume. Ma in realtà il monastero gemello sorge più in giù. No, assolutamente. Ma quindi queste monache comunque commerciano i rimedi di Santa Ildegarda? Sì, li chiamano di Santa Ildegarda, ma... Sì, proprio, sì. L'ho detto proprio volutamente. Sì, li commerciano e secondo me ci fanno lira di sacco di soldi. Sì, credo, che io ho visto veramente, ma c'è, sembra un megastore sotto lì, con gente che compra di tutto, dai rimedi, il vino, lo stesso vino, perché lei spesso nei suoi rimedi utilizzava il vino come base, no? Per cui sai, ma non è mica detto che restino lì i soldi, magari vanno a finire a Roma, chi lo sa. Non sappiamo mica, magari non sono... Questa è la chiesa che è stata costruita, la chiesa parrocchiale di Rue de Seine, che è stata costruita sopra le rovine del secondo, di Aibingen, del suo secondo monastero, quindi è una chiesa moderna, niente di che, però dietro c'è grande uno dei suoi quadri, una delle sue visioni, vedete questo uomo al centro, questa, poi è una donna in realtà questa. È una donna, è una dea con una tunica bianca lunga, dicono che sia il Cristo, ma per me questa è una donna, al centro di queste cose concentriche, sfere concentriche, una donna, che brava. Hai la parola scioltissima. Poi ci sono immagini moderne di lei, ma questa è tutta roba moderna, fuori dalla chiesa, così, queste... Anche brutte, tra l'altro. Questo è nel monastero delle monache benedettine, l'immagine di lei, di Ildegarda, che secondo me non è veritiera, perché questo crocifisso al collo qui, secondo me, lei non l'ha mai portato. Non portavano abiti verdi, lei e le sue monache? Se erano verdi non lo so, che sì, non portavano il velo. Lei aveva questa cosa di vestiti bianchi o verdi. Ah, ecco. Sì. Quindi vedete che è tutta, cioè questa che loro chiamano abadessa in realtà è una benedettina, quella è la divisa delle benedettine, marrone col crocifisso eccetera. Questo è sfocato, però è l'interno, è un'immagine dell'interno della chiesa delle monache che esiste oggi. Ci sono sì diverse donne, tutte le varie sapienti del passato. E anche che hanno fatto del velo lì, anche nei libri, non parla mai, dice loro, lei dice sempre che lei non tagliava i capelli alle sue monache, e intrecciava i capelli con i fiori, i gioielli, con le pietre. Quindi vedete questa immagine che loro mettono come Ildegarda, com'è completamente anche storicamente, spazzata. Perché la vestono come una benedettina di oggi. E questo è l'interno, la corte interna del monastero delle Benedettine. Questa è una vista dal monastero verso il fiume, verso il Rue de Seine con i vigneti. Questo è tutto quello che c'è. Questo è il monastero nella sua interezza. È enorme, è grandissimo. Però è asettico, a me non mi ha comunicato proprio niente. Io veramente per trovare Ildegarda ho dovuto andare nei boschi. E alle rovine di Disi Bodenberg, lì sì, l'ho sentita tanto. Ecco, questa è un particolare delle rovine di Disi Bodenberg, che ancora lì sono aperte, sono lì buttate in mezzo al niente, dove lei è diventata badessa, il primo monastero dove lei è stata. Questa è la famosa quercia tripartita dentro nelle rovine della chiesa, con tre tronchi, che è davvero un luogo magico. Lì è fortissimo. Dice proprio lei. Ecco, questo è tutto quello che rimane oggi di Ildegarda, veramente un po' pochino. E adesso, per terminare, vi faccio vedere. No, mi lascio aperto che non si sa. Avere ancora bisogno. Che ore sono? 6:10, se è giusto. 17:27. Allora, qualche dettaglio vediamo insieme di questo libro Sciamani, alcune parti che ho letto interessanti da condividere con voi. Gli incontri visionari con serpi giganti avuti sotto l'effetto dell'allucinogeno ayahuasca, quindi i serpenti, anche questo della prima visione, vedete che qui sotto c'è un serpente gigante, un essere metà uomo, metà animale, comunque ci sono serpenti e animali in tutte le sue visioni. Antenati preistorici, ecco, tutta, i nostri antenati preistorici, l'esistenza di una dimensione soprannaturale abitata da esseri non materiali e metamorfici, questo lo abbiamo visto prima. Ecco, il pacchetto completo, i teriantropi, quindi gli esseri metà uomo e metà animale, le chimere, ossia animali ibridi che mescolano i caratteri di due o più specie diverse, anche questi ci sono nelle sue visioni. Questi sono gli effetti dell'ayahuasca che ha scritto Hancock, quindi non sta parlando di Hildegarda, qui sta parlando dell'ayahuasca. I mostri, creature bizzarre, fantastiche, spesso terribilmente deformi. Schemi geometrici astratti e ricorrenti, spesso associati a immagini decisamente figurative. Ecco, vi faccio vedere questo. Questa è una bruttissima fotocopia, però questa è un'altra delle sue visioni. Quella dove c'è l'omino, che sembra un ognomo, che mette un fungo, vedete il fungo dentro nel paniere. Ci sono le sfere bianche. C'è il rombo, ci sono gli occhi, c'è una donna che chiaramente sta avendo una visione, questo rombo che è collegato con un filo al feto nel corpo della donna con un occhio chiuso e un occhio aperto. Quindi qui ci sono sia le sfere che gli occhi di cui si parlava prima, ma soprattutto questo esserino che mette il fungo. Qui lei l'ha tralasciato, chiaro e tondo, scritto, che usava i funghi. Non so se volete, vuoi vedere la... Schemi geometrici astratti ricorrenti, spesso associati a immagini decisamente figurative. La percezione della parete rocciosa come velo o membrana permeabile che cela mondi nascosti, l'assenza di linee di terra e di orizzonte, il mancato rispetto dei rapporti dimensionali e le strane raffigurazioni di uomini trafitti da lance. Nella giungla amazzonica gli sciamani della tribù Jivaro per effetto dell'ayahuasca dicono di sentire piccoli dardi affilati scagliati contro di loro da entità soprannaturali. Allucinazioni associate alle punture, alle sensazioni dolorose sperimentate in stati di coscienza alterati, espresse graficamente e metaforicamente dagli enigmatici uomini feriti, spine e frecce che trafiggono l'addome. Questa è un'immagine piccolino di uno di questi esseri metà uomini, metà animali, con tutte le frecce conficcate. Per me qui non c'è ombra di... Questo io non l'ho trovato da nessuna parte, ma per me è ovvio, è evidente che sta parlando di quello. Sulla sua tavola. La capacità umana universale di raggiungere stati di coscienza alterata caratterizza gli sciamani ed è la possibilità di esercitare questa capacità più frequentemente degli altri, quindi è quello che si diceva prima, che abbiamo le caratteristiche, le abbiamo, bisogna soltanto imparare ad utilizzarle. La trance iniziatica di cui l'apprendista sciamana entra, in cui entra prima di poter rispondere alla vocazione, implica nel mondo degli spiriti la sua tortura sacrificale. La morte è spesso lo smembramento seguito dalla ricostruzione e dalla rinascita del suo nuovo corpo terreno dotato di poteri soprannaturali sciamanici. Lei, Hildegarda, stava in catalessi per giorni quando riceveva queste visioni, per cui è proprio un processo di morte e rinascita tutte le volte, perché stava sdraiata, senza mangiare, senza bere, senza muoversi, con gli occhi spalancati. Quindi era proprio una morte rituale, sciamanica, senza ombra di dubbio. La maggior parte delle cose ve le ho già dette, adesso controllo solo. Ecco, guardate questa immagine, questa... dov'è questo? Sciamano che si è trafitto da una lunga fiocina che attraversa il centro del suo corpo da un lato all'altro, dove gli indiani pomo del Nord America. Vedete, questo c'è proprio una lancia conficcata nell'addome, proprio come nel disegno di Hildegarda. Gli sciamani dicono di raggiungere il cielo su funi di aria, mentre sciamani delle tribù Kulin e Kurnai immaginano un filo sottile che esce dai loro corpi. Questa immagine. Ma è talmente ovvio, talmente tipico, questa donna con il filo che esce si aggancia a un aquilone con questi occhi. Poi qui c'è, tra l'altro c'è anche una faccina. Sì. Un'altra faccina. Questa è un'immagine antica irlandese di una danza, è una litografia che mostra una danza di fairy, di fairy, e qui accanto vedete che chiaramente c'è un fungo. Quindi c'è l'associazione tra le fate e i funghi, ossia come se le fate, gli esseri fatati, fossero percepiti dopo che veniva presa questa sostanza. Tant'è che si dice da sempre di non entrare mai all'interno di un certo dei funghi, continuando già sia volutamente che inavvertitamente, proprio è un detto popolare. Sì. Sì, ma infatti fa parte del pacchetto anche l'idea di un cerchio che funge da portale interdimensionale, quindi un cerchio di erba, un cerchio di donne. Cioè, questi sono tutti cerchi qua che lei disegna, sì. Sono tutte figure circolari. Quindi il cerchio che consente il passaggio in un mondo diverso, una diversa dimensione, un diverso ordine temporale, le porte ad anello, che chiama. Ecco, qui è interessante, la grotta di Lourdes era una caverna dei fairy, delle fate, prima che il cattolicesimo se ne appropriasse, e quando a metà del XIX secolo la piccola Bernadette Soubirous ebbe davanti ad essa delle visioni, all'inizio descrisse la figura femminile che aveva visto non come la Vergine Maria, questo gliel'hanno fatto dire dopo estenuanti interrogatori, ma lei lo descrisse come un petito damisella. Una piccola signora, un'espressione che risente dei racconti di fate dei Pirenei. Lei la vedeva piccolina, ancora adesso la Madonna di Lourdes, quando è rappresentata alta, forse 30 centimetri, su una colonna, su una roccia, perché lei la vedeva sulla roccia. Ecco, infatti qui sostiene lui che nella grotta ci dovessero essere funghi. Dov'è? Male che nessuno di voi è cattolico praticante. Ecco, quindi Bernadette Soubirous, fisicamente debole, affamata, ansiosa, agitata e con la prospettiva incombente dello shock dell'acqua fredda. Sapete che lei la prima visione la ebbe quando andò con la sorella, l'amica della sorella, per far legna. Lei era malata, aveva l'asma, Bernadette era profondamente malata. C'è un bellissimo film su YouTube, se volete vederlo, sulla storia di Bernadette con quella meravigliosa attrice Jennifer Jones, che mi sono appena guardata perché è interessantissima, è una storia molto ben raccontata di tutta la parte sciamanica, un film vecchio comunque ancora in bianco e nero. Quindi lei era malata, Bernadette, e veniva considerata ritardata anche dalla comunità lì a Lourdes nella quale viveva. A scuola andava male, non ricordava le cose, aveva l'asma, era decisamente denutrita perché la famiglia era poverissima. Quindi vanno a far legna nel bosco, lei oltre ad essere malata e con la prospettiva di dover attraversare a guado un corso d'acqua per andare a prendere la legna dall'altra parte, era entrata in uno stato di shock perché non sapeva come fare, non voleva restare lì ma non voleva neanche andare dall'altra parte per paura che le si aggravasse l'asma. E quindi, dice lui, è ovvio che Bernadette Soubirous fosse la candidata ideale per entrare di lì a poco in uno stato di coscienza alterato, perché abbiamo visto che anche col suono del tamburo, con la danza, col digiuno e anche alle volte con uno shock repentino, per esempio quelli che fanno incidenti d'auto, che si vedono proiettati fuori, no? O con uno stato di ansia, con uno di stress molto forte, perché andiamo fuori dallo stato ordinario e quindi riceviamo impressioni dall'altra dimensione. Quindi stato di coscienza alterato, anche se non avesse fatto parte di quel 2% della popolazione umana in grado di entrare spontaneamente nella trance, però lui dice che probabilmente lei era una spontanea strancer, anche perché era sempre, come si dice, non svagata. Non c'era, infatti la consideravano ritardata, e non a caso lei era l'unica che vedeva di giovedì, tra l'altro, tutti i giovedì, che aveva questa visione. Nessuno altro vedeva questa petita da Miselo. Però andavano sempre di più e i racconti dicono che lei entrava in uno stato tale di estasi, di rapimento mistico, e poi l'acqua che è stata scavata dove lei ha detto di scavare, per cui nessuno mai ha avuto dubbi che la visione lei ce l'avesse, anche se nessun altro la vedeva. Lei dice: guardai in su verso la grotta, scorse una signora vestita di bianco, aveva un abito bianco, una fascia blu e una rosa gialla su tutti e due i piedi. La signora, tra virgolette, che nei successivi 5 mesi apparve a Bernadette altre 17 volte nello stesso luogo, indossava l'abito tipico delle fate, l'abito bianco con la fascia azzurra. Fu solo molto più tardi che la visione venne identificata con la Vergine Maria. Le hanno fatto dire per forza nel film, ve lo consiglio, se volete vi do il link, vi mando il link, si vede molto bene che l'hanno stressata, l'hanno tenuta prigioniera, l'hanno minacciata di imprigionare suo padre, per farle confessare quello che lei non aveva visto, esatto. Proprio come gli aiutanti spirito dell'odierna Amazzonia insegnano agli sciamani in preda alle allucinazioni le proprietà delle piante, così il 25 febbraio 1858 la cosiddetta Nostra Signora di Lourdes, ossia la petita da Miselo, diede istruzioni a Bernadette riguardo a una certa erba. Le disse: vai e mangia quell'erba e poi lì sotto scava e vedrai che uscirà l'acqua. Per cui ovviamente ecco che fa 2 più 2 dice quell'erba doveva essere per forza una pianta psicotropa, anche se lei la visione ce l'aveva già avuta. Però dopo ha cominciato a mangiare quest'erba e dopo ha iniziato a scavare, e da dove ha scavato è uscita la sorgente che adesso dove adesso c'è la vasca dove entrano dentro. E fin da subito la gente cominciò ad avere guarigioni miracolose, tra virgolette. Quindi lui sostiene che ci potesse essere in quel luogo dove lei andò a mangiare un letto di funghi psicoattivi come la psilocibe lanceolata, che sono talmente piccolini che uno magari anche solo strofinandoli o sedendoci sopra inala le spore e parte, perché sono proprio piccoli piccoli, in grado di spiegare le ripetute sessioni di pura estasi sciamanica di Bernadette. Lourdes si trova tra l'altro vicino al centro geografico di quella vasta regione del sud-ovest della Francia e della Spagna settentrionale, dove è stata trovata la maggior parte delle caverne dipinte risalenti al Paleolitico superiore, quelle di cui parla Ginauer, quindi Altamira, Lourdes, il castiglio, molte sono ancora visitabili, sono meno belle di Altamira e Lourdes, ma vale, comunque se andate vale la pena di vederle, ce ne sono sia in Francia che in Spagna, in Asturia è pieno di tutta la fascia del Cammino di Compostela, tra l'altro. Quindi Lourdes è lì, quindi lì c'è una forte tradizione di fate e di piante psicotrope, perché è dove sono stati trovati gli petroglifi. Credo che a questo punto mi manchi pochissimo. Ah, ecco, lo schermo a forma di rombo che riportava gli stessi disegni ondeggianti e intreccianti come serpenti. Questa è il... Lui parla con una ragazza che prende ayahuasca e lei gli dice che le è stato mostrato uno schermo a forma di rombo che riportava disegni e cose intrecciate. Questo di Degarde è proprio un rombo perfetto con gli occhi dentro. Vediamo se c'è ancora qualcosa di interessante, se no facciamo la nostra... Dunque l'alfabeto, ve l'ho detto, i codoni del DNA che lei ha visto, e qui mandragola, l'occhio, no, sono le cose che vi ho detto prima, le piante che erano presenti in Europa, la mandragola, il vischio, la manita muscaria, l'oppio, il papavero, lì a Bing c'erano distese, quando sono stata io in primavera c'erano distese enormi di papaveri, quindi sicuramente lei utilizzava anche quelli. Ecco, io ho terminato la mia esposizione. Se non avete niente da dire, da condividere, da intervenire, ci mettiamo la musica, ci facciamo la nostra meditazione e poi andiamo a casa. Qualcuno vuole dire qualcosa? Adesso sapete bene il Degarde, mi sa. Grazie. Io studio tanto, per questo mi abilisco quando poi vedo che le persone, no, perché se sapessi quanto studio... Cioè. Ma tu indubbiamente, poi tu lo sai meglio di me probabilmente, perché l'esperienza l'hai iniziata a fare tanto tempo fa, che purtroppo le persone sono così, che servono un po', magari sai, ci sono quelle che prendono per quello che gli serve, poi dopo se ne vanno. Mi risulta assurdo perdere una cosa del genere, sì, già pagata oltretutto, sì, però vabbè. Però così dici, vabbè, non capisco, ma va bene lo stesso. Beh, io ci sono rimasta tanto. Ma non so, ci credo, infatti.